6, ovviamente nel periodo del referendum le energie sono state tutte per riuscire a spiegare sul territorio perché è meglio la gestione pubblica di quella privata e quindi riuscire a raccogliere le firme. Nonostante il referendum siamo qui ancora a dover discutere sulle forme di gestione, sulle situazioni, perché abbiamo una serie di normativa che rendono un po' difficile riuscire a capire come poter muoversi all'interno di queste norme. Quindi a fine luglio si era arrivati con la riunione dei sindaci che avevano votato per il rinvio dell'ufficio d'ambito a fine ottobre, e quindi noi proprio con qualcuno abbiamo preso questo impegno di vederci per poter fare un punto della situazione e anche essere poi propositivi su alcune questioni. E visto che il 30 ottobre si avvicina, in più il 18 di ottobre ci sarà la sentenza della Corte Costituzionale sul ricorso di costituzionalità alla legge regionale, era appunto il momento di potersi vedere e confrontare. E così abbiamo fatto gli inviti per questa serata, sperando che ne esca qualcosa anche di positivo e costruttivo, non sia solo uno scambio di idee. Quindi vi ringrazio sia di essere intervenute, come ringraziamo la CGIL che ci ha messo a disposizione la sala in modo da poter trovarci questa sera. Ora farà un'introduzione dal punto di vista proprio normativo, quadro della situazione normativa attuale, il Roberto Fumagalli, vicepresidente del Comitato Mondiale. Bene, salve a tutti. Come diceva Edi, avremmo preferito essere qua semplicemente a festeggiare il risultato referendario. Utile che ci ricordiamo quei due passaggi, secondo noi importanti, nella quello che succede da qualche anno a questa parte in questo paese, cioè il fatto che a sostegno del referendum si sia raccolti il numero di firme record nella storia della Repubblica Italiana, quindi 1.400.000 firme, e il risultato referendario del 12 e 13 giugno in perfetta controtendenza rispetto ai precedenti 15 anni o forse di più nell'esito dei referendum che non avevano raggiunto il quorum. Il risultato invece del referendum, cioè i due referendum sull'acqua pubblica uniti agli altri due, adesso ognuno tira la coperta su i vari temi dei quesiti referendari, diciamo che hanno raggiunto il quorum in maniera decisa e in maniera ancora più decisa, inequivocabile, con una percentuale più che bulgara di sì a sostegno dell'abrogazione delle norme. Purtroppo, come si diceva prima, non siamo qui a festeggiare, abbiamo ottenuto il risultato che ci prospettavamo con i due quesiti referendari, ovvero portare a casa, se vi ricordate, i temi dei due quesiti. Il primo, una gestione totalmente pubblica dell'acqua, quindi relegando alla non possibilità la privatizzazione dell'acqua, cosa che invece quel famigerato articolo 23 bis o conosciuto come decreto Ronchi prevedeva come quasi unica possibilità, cioè la gestione privata dell'acqua, e dall'altra parte il non poter fare profitti sull'acqua, sulla gestione degli acquedotti, attraverso l'abrogazione della norma che prevedeva la remunerazione del capitale investito appunto nella gestione degli acquedotti. Non siamo qui a celebrare la vittoria, e quindi l'aver ottenuto questi due passaggi, quindi la certezza che l'acqua dal 14 giugno in avanti, si spera per sempre, fosse a gestione totalmente pubblica, così come la certezza che chi gestisce il servizio idrico non possa fare profitti perché l'acqua viene riconosciuta come bene comune, come bene a gestione totalmente pubblica. Perché? Perché forse nel nostro paese si capisce sempre meno, e perché non viene rispettato un mandato referendario così chiaro e limpido. Gioco un po' sul colore dell'acqua, dovrebbe essere così, e invece abbiamo un percorso del tutto oscuro rispetto anche a quanto già avvenuto da giugno ad oggi, perché non solo non si sta rispettando il dettato referendario, ma addirittura una manovra finanziaria, che è quella votata tra agosto e settembre, dice esattamente l'opposto, cioè dice che i servizi pubblici locali vanno privatizzati, cioè praticamente ripete quasi con le stesse parole lo stesso contenuto del decreto Ronchi. È vero che fa l'eccezione del servizio idrico, ma così come è scritta la norma nemmeno questa eccezione risulta così sicura, o comunque il fatto che la manovra finanziaria metta su un piatto d'argento ai comuni, che teoricamente dovevano essere l'anello forte del percorso post-referendario, oggi diventano l'anello debole, mette sul piatto d'argento la possibilità di privatizzare anche il servizio idrico in cambio addirittura di incentivi economici. Se ci pensate, questo è un paradosso, perché in presenza di una manovra giustificata dalla crisi, dal pesante buco di bilancio pubblico, vede invece dei soldi a disposizione degli enti locali, forse sono gli unici, perché gli altri sono essenzialmente dei tagli, dei soldi a disposizione degli enti locali se questi privatizzano. E ci mettiamo anche il servizio idrico, perché una prima lettura dell'articolo 4 e dell'articolo 5 della manovra finanziaria voluta e votata con la fiducia in Parlamento prevede anche questa possibilità, insomma, che le aziende pubbliche vengano, le aziende che gestiscono i servizi pubblici locali, vengano privatizzate in cambio di un incentivo economico. Quindi vediamo di fare un po' il punto della situazione, direi di dividerlo in tre parti, cioè quali sono i passaggi che devono o dovrebbero essere fatti per portare a casa il pieno risultato referendario, quindi la concretizzazione, la trasposizione legislativa e pratica della volontà referendaria. I tre passaggi sono essenzialmente sui tre ambiti dove si dovrebbe intervenire. Il primo è quello a livello centrale, a livello statale, una nuova legge che superi la legislazione attuale in materia, che tra l'altro non esiste più perché è stata abrogata in quei due passaggi legati al referendum, la parte legata alle leggi regionali, perché c'è un'altra norma, poi la richiameremo, che riguarda la soppressione delle autorità d'ambito, ovvero i decisori della gestione del servizio idrico che fino a ieri erano i sindaci e che invece nel momento in cui vengono soppresse le autorità d'ambito o ATO, come note, quindi essenzialmente l'assemblea dei sindaci, sono demandate alle singole regioni le possibilità di addivenire a una nuova norma regionale che definisca quali sono i soggetti che devono governare il servizio idrico. Tra l'altro la Regione Lombardia è stata la prima e forse unica regione, insieme alle Marche e insieme alla Puglia, però la Puglia ha una storia tutta a sé, che non ha aspettato il referendum e ha già legiferato proprio su questa materia legata alla soppressione degli ATO, delegando alle province e quindi togliendo, espropriando di fatto i comuni dalla titolarità nelle decisioni sul servizio idrico. Il terzo passaggio è proprio su l'ultimo anello della catena, quelli che sono gli enti locali che devono governare e di conseguenza gestire il servizio idrico, che sono essenzialmente i comuni o in Regione Lombardia, ripeto, l'unica legge regionale che esiste, le province, che è il nuovo soggetto che entra nel campo, tra l'altro col paradosso che nel frattempo sapete benissimo che c'è un disegno di legge votato dal Parlamento, di legge costituzionale, che prevede l'abrogazione delle province. Quindi anche lì confusione su confusione. Ripeto, forse in questo paese si fa veramente fatica a portare a casa un risultato politico e le leggi e leggine con le quali ci dobbiamo purtroppo confrontare stasera, per i non addetti ai lavori devo dire che sarà un esercizio un po' antipatico ricordare tutti i passaggi legislativi che ci sono, che ci sono stati e che ci dovranno essere ulteriormente, quando, ripeto, il percorso dovrebbe essere già definito dalla volontà politica espressa da 26 milioni di cittadini italiani. Allora, vediamo di partire dal livello più alto, che è appunto quello nazionale, ovvero dopo il referendum, quale normativa dovremmo avere a applicare la volontà referendaria? Diciamo che il mandato che i cittadini con il voto ai due referendum hanno dato al Parlamento è il tema della ripubblicizzazione del servizio idrico, o almeno, mettiamola lì così, la non privatizzazione. L'acqua di fatto non è più definita, come invece faceva il decreto Ronchi, un servizio pubblico locale di rilevanza economica, ma in effetti un diritto, un bene comune, una gestione che deve essere sicuramente pubblica. Poi possiamo articolare che cosa vuol dire gestione pubblica. Sicuramente non vuol dire gestione demandata a una società di diritto privato. Il secondo quesito referendario riguardava invece, ricordiamo, la non più possibilità di remunerare il capitale investito. Che cosa determina, che cosa ha determinato il referendum? Con l'abrogazione dell'articolo 23 bis, di fatto non c'è una disciplina nazionale che definisce come fare gli affidamenti nella gestione degli acquedotti. Quando dico gestione degli acquedotti intendo servizio idrico, ovvero acquedotti, fognature e depurazione. Perché la legge di riferimento era l'articolo 23 bis, la norma che c'era prima era il decreto ambientale 152, che la Corte Costituzionale, nel momento in cui ha approvato i quesiti referendari, dice non rivive. L'unica cosa che oggi, l'unica norma sulla quale poter fare riferimento non è una norma nazionale, ma è la disciplina comunitaria. E la disciplina comunitaria prevede, nelle due scelte di campo, se il servizio lo si ritiene di rilevanza economica, allora c'è la messa sul mercato, quindi l'affidamento ai privati, possibilità che in Italia possiamo dire dopo il voto referendario non è più possibile. Resta solo la strada della gestione totalmente pubblica. Noi ci mettiamo qualcosa di più, diciamo che gestione pubblica significa non più legata a società di diritto privato, quali sono ad esempio anche le SPA totale capitale pubblico, ma sono i cosiddetti enti di diritto pubblico, aziende speciali o consorzi, che se ci pensiamo, anche in questo caso non dobbiamo inventare niente di nuovo, erano quelle realtà legate agli enti locali, i comuni essenzialmente, che fino a 10 anni fa, più o meno, ancora oggi in alcuni casi, pochissime, per la verità, sono rimasti pochissimi consorzi e poche aziende speciali, che non si sono trasformate appunto in società di capitali. Richiamo appunto alla disciplina comunitaria. Ripeto, questa è la lettura che la Corte Costituzionale fa nel momento in cui avvenisse, poi è avvenuta, l'abrogazione col primo quesito referendario. La norma di riferimento è quella che dà genericamente la disciplina dell'Unione Europea. Sul secondo quesito referendario, che prevedeva appunto la cancellazione del 7% di remunerazione del capitale, è immediatamente eseguibile questo passaggio, il che vuol dire che se poi i sindaci ci aiutano in questo passaggio di difficile lettura, nel piano d'ambito della provincia di Como è previsto che con la bolletta dell'acqua noi ci paghiamo anche la remunerazione del capitale della società che gestisce oggi il servizio idrico, che gestirà domani. Questa parte deve essere cancellata. Purtroppo non avviene in automatico, dovrebbe avvenire in automatico, ma deve essere fatto un passaggio, quindi prevedere la modifica del piano d'ambito, cioè quel programma che i sindaci si sono dati per gestire il servizio pubblico nei prossimi 20 anni, dove se è previsto appunto questo 7%, che poi è un incremento delle bollette, quindi il 7% in più che noi ci pagheremo, dovrebbe essere appunto tolto rispettando il secondo quesito referendario. La lettura dovrebbe essere applicazione immediata di queste due volontà politiche espresse dai cittadini. In caso contrario, in qualsiasi momento potremmo pensare a ricorsi di costituzionalità o incostituzionalità. Come vi dicevo, la stessa manovra finanziaria, l'articolo 4 e gli articoli 5, che prevede la privatizzazione di fatto obbligatoria di tutti i servizi pubblici locali, aperta parentesi ad eccezione del servizio idrico, di per sé è una chiara violazione del referendum, quindi della Costituzione. Qualcuno sta pensando di impugnare questa norma. Chi lo può fare? La titolarità è essenzialmente delle regioni o degli enti locali. Mi sembra che la Regione Puglia abbia già manifestato la volontà di ricorrere contro la manovra finanziaria, così come l'ANCI nazionale, ANCI Lombardia, ripetuta in alcuni incontri, anche ieri mi sembra che ci sia stato un incontro in ANCI Lombardia, che ha addirittura chiesto alla Regione Lombardia di presentare un ricorso contro la manovra che appunto viola la volontà referendaria. Ci siamo ancora in corsi a sostegno del nostro referendum, se ci pensate. Teoricamente il Parlamento dovrebbe produrre e votare una nuova norma che recepisce la volontà referendaria rispetto alla gestione pubblica dei servizi, in particolare sul servizio idrico, ripeto, che altrimenti non ha una norma di riferimento, se non quella più generica comunitaria. Dovrebbe inquadrare il servizio idrico come servizio di interesse generale, a valenza non economica, a differenza della rilevanza economica che si diceva prima, e identificare sui territori modalità di governo e gestione pubblica, e noi ci aggiungiamo ai partecipata, cioè con la partecipazione dei cittadini, rispetto alla gestione territoriale del servizio idrico, legata ovviamente ai comuni e alle realtà locali, che invece sembra che in alcuni passaggi, tipo la legge regionale, verrebbero superati, perché la delega è nei confronti della provincia, tagliando fuori appunto da questo percorso le regioni. Che cosa sta succedendo dal 13 giugno ad oggi a seguito del referendum? Praticamente nulla, oltre alla manovra finanziaria, il nulla. Eppure esistono già sul tavolo del Parlamento due proposte di legge, una addirittura datata 2007 e proposta dal Forum Italiano dei Movimenti sull'Acqua, che fa parte il movimento referendario che ha promosso i due quesiti referendari, e poi vediamo nello specifico cosa dice, è una proposta di legge presentata dal Partito Democratico che va a modificare alcune leggi, esistenti, la 152 è il decreto ambientale e lo stesso articolo 23 bis, perché questa proposta è stata lanciata ovviamente quando l'articolo 23 bis, cioè il decreto Ronchi, esisteva ancora, cioè prima del referendum. È annunciata, come vi è scritto qui, la presentazione di una proposta di legge anche da parte della Lega Nord. Per il resto non se ne parla. Queste due proposte di legge sono all'attenzione della Commissione Ambiente della Camera, ma non è ancora stato prodotto un calendario di discussione delle due leggi o probabilmente di un confronto tra i due testi per arrivare a un testo più organico. Al di là che entrambi i testi, ci rendiamo anche conto anche noi che abbiamo proposto questa legge nel 2007, poi vediamo nel dettaglio cosa prevede, andrebbe aggiornata alla luce delle norme, sentenze della Corte Costituzionale, soprattutto legate appunto al referendum. Ricordiamoci che sulla legge di iniziativa popolare erano state raccolte 400.000 firme, anche questo possiamo dire uno dei record della storia della Repubblica Italiana. Per presentare una legge di iniziativa popolare al Parlamento servono 50.000 firme, noi abbiamo fatto 8 volte di più, abbiamo presentato 400.000 firme. Dal 2007 purtroppo la nostra legge giace sul tavolo del Parlamento e non è mai stata discussa. Avete forse un volantino, che era anche quello distribuito all'isola che c'è, i contenuti ridotti in 10 punti della legge, ve li riassumo ancora di più in questi quattro punti la nostra legge di iniziativa popolare, che è fatta di 13 articoli. Chiunque vuole andare a leggerla è sul sito acquabenecomune.org, dice essenzialmente queste cose, e quindi è precursore del referendum. L'acqua è un diritto, l'acqua è un bene comune, nella gestione dell'acqua deve essere prevista la partecipazione dei cittadini, la gestione dei servizi idrici può essere effettuata solo tramite enti di diritto pubblico. No, come dicevo prima, alle società di capitale, che sono società di diritto privato, anche se a capitale totalmente pubblico. Come vi accennavo prima, a questo marasma legislativo, prodotto prima e post referendum, si aggiunge un'altra norma che non c'entra nulla col referendum, che è questa legge del 2010, qualcuno lo chiama decreto Calderoli, ci mettiamo un po' i nomi, in cui si sopprimono le autorità d'ambito, cioè le assemblee dei sindaci che fino a ieri avevano deciso come gestire il servizio idrico territorio per territorio. Queste autorità sono già state cancellate di fatto, e lo saranno in tutta Italia entro il 31 dicembre del 2011. Qui c'è scritto 2010 perché mi sembra ci sia stata una proroga col mille proroghe, e quindi è passata dal 31-12-2010 al 31-12-2011. La norma dice, in poche parole, spetta alle regioni individuare il nuovo soggetto cui affidare le competenze, ovvero la titolarità, in materia di servizi idrici. Vediamo in che stato è la regione Lombardia. Dicevo, a cascata abbiamo affrontato il tema centrale, cosa dovrebbe fare il Parlamento, non ha ancora fatto, cosa dovrebbe fare Regione Lombardia, qual è lo stato dell'arte. Ripeto, Regione Lombardia ha una punta più avanzata, noi possiamo dire in termini negativi, rispetto alle altre 19 regioni, e comunque non ha adeguato la propria norma al referendum, e poi ci impongono quelle scadenze che già all'inizio venivano ricordate. La legge della Regione Lombardia che riguarda l'acqua è la 26/2003, che disciplina non solo l'acqua ma tutti i servizi locali che vengono definiti in pratica di rilevanza economica, cioè lo stesso errore che aveva fatto il decreto Ronchi e che noi abbiamo cancellato con una volontà chiara nel voto referendario. La 26/2003 non riguarda di conseguenza solo l'acqua, ma tutti i servizi pubblici a rete, diciamo il gas, i rifiuti e altri servizi. Poi vediamo che cosa chiediamo noi. La legge è stata dal 2003 in avanti, fino al dicembre dello scorso anno, modificata più e più volte, vi ricordo solo alcuni passaggi. Nel 2006 si era fatta una forzatura verso la privatizzazione, un obbligo di privatizzazione dei servizi pubblici, in particolare del servizio idrico. Questa norma, vado veloce, era stata modificata a seguito della proposta di referendum abrogativo che era stata avanzata da 144 comuni che chiedevano di cancellare nel 18 del 2006 quei tre passaggi che prevedevano i privati all'interno della gestione degli acquedotti. Una battaglia, ripeto, che è avvenuta molto prima del referendum, addirittura prima della legge di iniziativa popolare, perché in Lombardia i comitati più o meno sono attivi già da parecchi anni, e si era fatta questa battaglia a fianco di 144 sindaci di tutta la regione, che più o meno sono il 10% dei sindaci, mi sembra fossero 14 anche in provincia di Como i sindaci referendari. Si ottenne una modifica della legge regionale a gennaio del 2009 che finalmente, adesso vado veloce, prevedeva o faceva rientrare la possibilità di gestire pubblicamente, per chi conosce la norma, in house, cioè in casa, il servizio idrico. Questa norma è stata di nuovo cancellata, ignorando la volontà di 144 comuni, nel dicembre dello scorso anno. Se vi ricordate, abbiamo fatto un'assemblea simile a novembre dello scorso anno, era presente anche sindaco di Rifino e altri amministratori, che Furi, c'era anche Bianchi come consiglieri regionali, che avevano proprio sul loro tavolo in quei giorni la modifica della legge. Il nostro appello era: non approvate quella legge, perché si pone in contrasto col referendum che avremmo votato 6 mesi dopo. Regione Lombardia, o meglio la maggioranza e il Consiglio regionale, ha ignorato il nostro appello ed hanno approvato una legge che al primo punto cancella, questo non c'entra col referendum, comunque cancella la titolarità dei comuni e delega alle province il governo del servizio idrico, e al secondo punto chiede di affidare la gestione del servizio idrico ai sensi del decreto Ronchi, cioè citando espressamente l'articolo 23 bis, che era passibile di abrogazione referendaria. L'appello, ripeto, è andato a vuoto e il Consiglio regionale, la maggioranza con le opposizioni che mi sembra uscirono dall'aula compatte contro questo voto, comunque venne ripreso. Che cosa dice la legge regionale? Questo passaggio ci serve perché è di nuovo da riproporre la modifica alla legge regionale. Spetta alle province la titolarità delle decisioni sull'acqua, i comuni, relegati in una non meglio definita conferenza dei sindaci, possono esprimere un parere sulle decisioni già prese dalla provincia attraverso questo ufficio d'ambito. L'affidamento della gestione dei servizi, quando dico affidamento significa consegnare nelle mani di un soggetto terzo per i prossimi 20 anni la gestione di tutti i nostri acquedotti, quindi tutti gli acquedotti, tutte le fognature, tutti i depuratori della provincia di Como, a un soggetto che Regione Lombardia individua attraverso il richiamo del decreto Ronchi nella gara, quindi essenzialmente nella gestione privata degli acquedotti. Ve la metto confusa come è confusa finora. Su questa cosa si innesta un altro meccanismo perverso: il governo nazionale fa ricorso contro la legge regionale, paradosso dello stesso colore politico, ma questo ci interessa poco nelle nostre dinamiche, devo dire. Però il Consiglio dei Ministri fa ricorso contro la legge regionale di Formigoni, chiamiamola così, ritenendola incostituzionale. Questa cosa è in discussione nelle prossime settimane, anzi tra pochissimo, settimana prossima, il 18 di ottobre, la Corte Costituzionale si dovrà esprimere sulla legittimità costituzionale della legge 21-2010 votata appunto da Regione Lombardia. Vediamo quello che tra l'altro avevamo chiesto nel 2010, lo richiediamo nel 2011 al Consiglio regionale: come modificare questa legge regionale allineandola alla volontà dei referendari. C'è un richiamo, non lo facciamo noi, lo fa lo stesso statuto di Regione Lombardia, che richiama all'articolo 2 il carattere pubblico dell'acqua, messa così un po' generica, ma diventa una spina nel fianco dei privatizzatori. Se nello statuto ti sei iscritto, votato all'unanimità, credo, dal Consiglio regionale, c'è scritto che viene assicurato il carattere pubblico dell'acqua, perché me la privatizzi? O comunque allinealo anche al tuo statuto. Il primo passaggio che noi chiediamo è di escludere l'acqua dai servizi a rilevanza economica, quindi non deve più centrare con quella legge 26-2003 che vi ho descritto prima, ma deve uscire da quel percorso. Quel percorso riguarda forse altri servizi pubblici, ma non l'acqua. E questo lo dicono chiaro, è la volontà referendaria. Chiediamo nel contempo di rivedere la perimetrazione degli ambiti territoriali, che non noi, ma la legge Galli, quindi la madre di tutte le leggi che riguardano il servizio idrico, dice deve coincidere con i bacini idrografici. In Regione Lombardia si fece l'errore, addirittura nel 1998, non nel 2003, di far coincidere gli ambiti con le province, e noi di questo chiediamo superamento. Chiediamo che la titolarità delle decisioni sui servizi idrici debbano rimanere in capo ai comuni, cosa che invece oggi viene sottratta e delegata alle province. Deve essere prevista la partecipazione dei cittadini e dei lavoratori nelle scelte sui servizi idrici. Poi possiamo articolare cosa intendiamo noi per partecipare nelle scelte. Vogliamo dire che nelle assemblee dei sindaci o di chi decide venga tenuto in considerazione anche il parere dei cittadini, dei comitati, delle associazioni che propongono come migliorare appunto il servizio idrico nell'interesse di tutti. La gestione dei servizi idrici deve essere affidata solo a enti di diritto pubblico che sono, come vi ricordavo prima, consorzi o aziende speciali consortili. Ripeto, non ci inventiamo niente di nuovo, anzi qualcosa di vecchio ripescandolo nel passato, dove i consorzi e le aziende speciali agivano senza, diciamo, interesse statutario nel fare il profitto, ma nella garanzia di un servizio nell'interesse dei cittadini e non del bilancio stesso, della quadratura del bilancio della stessa società. Abbiamo articolato, e lo faremo di nuovo proponendolo all'attenzione dei consiglieri regionali, delle modifiche ai due articoli, che adesso non ve li sto a dettagliare per non annoiarvi, che sono il 48, che riguarda appunto la titolarità delle decisioni. Noi diciamo di superare quella ufficio d'ambito che oggi è deciso praticamente dalla provincia e di chiamarlo piuttosto azienda speciale consortile, dove l'assemblea è composta di nuovo dai sindaci, quindi i sindaci devono avere piena competenza nelle decisioni che riguardano il servizio idrico. Queste sono le motivazioni. Diciamo che la Regione Lombardia è stata l'unica che ha deciso di sottrarre i comuni delegando alle province, e questo è un passaggio che nessun'altra regione ha pensato e che nemmeno la legge, il decreto Calderoli che vi citavo prima, ha mai definito. L'importanza dei comuni, perché ovviamente sono diciamo quelli che hanno conoscenza diretta dei loro impianti, la provincia ci risulta che non abbia conoscenza della realtà in termini di ricognizione del proprio impiantistico gestionale degli impianti idrici. L'altra modifica riguarda l'articolo 49 della stessa legge, che riguarda appunto come affidare il servizio idrico. Anche in questo caso noi diciamo, rispettando la volontà referendaria, dobbiamo affidare la gestione del servizio a enti di diritto pubblico. Vado veloce, in questo caso lo salterei, fa riferimento alla una parte del Trattato dell'Unione Europea che chiama fuori l'acqua dal percorso che invece diventa quasi obbligatorio per gli altri servizi, cioè quello della gestione privatistica. Sull'acqua invece siamo salva, una sorta di salvacondotto. Uno dei percorsi che stiamo pensando per modificare la legge regionale è un appello che abbiamo fatto partire praticamente oggi, che arriverà all'attenzione di tutti i sindaci, consiglieri comunali, consiglieri provinciali, assessori, comitati, associazioni, partiti, chi volete, a supporto di quelle modifiche che vi ho illustrato finora. L'altra possibilità che ci riserva lo statuto regionale è di chiedere un referendum abrogativo della stessa legge. Come si fa il referendum abrogativo? È lo statuto di Regione Lombardia appunto che lo prevede: o raccogliere 300.000 firme in tutta la regione, o una delibera fatta da almeno 4 consigli provinciali, o una delibera fatta da almeno 150 consigli comunali. L'altra volta siamo arrivati a 144, probabilmente anche questa volta ci potremo arrivare a questa possibilità. Ripeto, è per ora una minaccia che mettiamo sul tavolo di formigone. Vediamo se prima di questo percorso la legge verrà modificata nella volontà dei referendari. Chiudo con questo passaggio, dando magari spunto al sindaco di Fino Mornasco, che parlerà dopo di me. Che cosa chiediamo in questa fase? Soprattutto ai sindaci, ai parlamentari ci siamo già appellati con la legge di iniziativa popolare, ai consiglieri regionali attraverso l'appello che appunto abbiamo diffuso da oggi, ai sindaci nello stesso appello, comunque lo ricordiamo questa sera a beneficio, chiediamo di evitare che vengano loro stessi espropriati dalle decisioni e di evitare quei percorsi che possano portare alla privatizzazione dell'acqua. Quindi, nello specifico, sul primo punto, fermare le procedure per la costituzione dell'ufficio d'ambito provinciale. È sul tavolo, credo, Napoli ce lo ricorderà, della riunione che farete, immagino, entro la fine del mese, magari se ci aggiorna su questo passaggio. La seconda, non fare affidamenti che prevedano la gara o comunque l'ingresso dei privati. Vi sembrerebbe paradossale che la provincia di Como, a distanza di 4 mesi dal referendum, privatizzi la gestione degli acquedotti? Uno dice sì, eppure vi posso dire che oggi le province di Cremona e le province di Mantova stanno ragionando ed hanno già fatto degli atti in questa direzione. Facciamo la gara per privatizzare i nostri acquedotti. Per colorarvela non c'entra nulla, la provincia di Cremona di centrodestra, la provincia di Mantova di centrosinistra. E stanno ragionando tutti su quel passaggio. Facciamo la gara per privatizzare i nostri acquedotti. Del referendum votato da 26 milioni di cittadini ci facciamo un baffo. Il pretesto è non abbiamo la legge nazionale di riferimento o la legge regionale ci obbliga a farlo. Ma il problema è che i sindaci non stanno, perché la decisione è sul tavolo dei sindaci, perché anche lì tra sindaci e provincia si capisce poco chi deve decidere, e comunque stanno decidendo questo percorso. Noi, ripeto, ci stiamo mobilitando in tutta la regione Lombardia e i primi interlocutori del nostro appello sono appunto i sindaci, ai quali chiediamo questo passaggio. Quindi, se non altro, di fermare le decisioni in attesa. Il 18 di ottobre ci sarà la sentenza della Corte Costituzionale, c'è un'evoluzione normativa nazionale, regionale e locale. Chiediamo appunto, comunque in tutti i percorsi, di evitare passi falsi poi irreversibili. Perché vi dico irreversibili? Ve l'ho ricordato prima, si tratta di una decisione che non vale 2 o 3 anni privatizzo e poi vedo, se va male torno indietro. 20 anni sono gli affidamenti di gestione, dopo 20 anni non si torna indietro. La Toscana e le esperienze italiane di privatizzazione insegnano che consegnare l'acqua ai privati è una dinamica che poi sfugge dal controllo pubblico ed è legata semplicemente alla protesta dei cittadini incavolati per le bollette che continuano a aumentare, per il servizio che continua a scadere, le stesse cose viste e riviste che purtroppo, ripeto, nonostante il referendum e una chiara espressione di volontà da parte dei cittadini, stanno ancora succedendo in mezza Italia e purtroppo anche in 2 province della regione Lombardia. Como ancora no, però magari Napoli, se ci aiuta a fare un quadro del punto della situazione. Io ho finito su questa parte, magari poi ritorniamo su alcuni passaggi. Appunto, come pronunciato da Roberto, per Napoli, per farci un po' un punto dal punto di vista proprio istituzionale, coinvolto direttamente per gestire tutto questo. Intanto ringrazio dell'invito, è un'occasione anche per me per arrivare qua questa serata di aggiornarmi sugli ultimi passaggi che ci sono stati. Devo dire che io mi occupo della tematica soltanto da un paio d'anni, da quando sono stato eletto sindaco del mio paese di Mornasco, quindi non ho una grande esperienza alle spalle. Sicuramente amministratori molto più autorevoli di me potrebbero qua essere presenti stasera a parlare della tematica dell'acqua. Devo dire che per cause di forza maggiore, per l'impegno che mi sono preso, naturalmente anch'io ho dovuto in questi 2 anni crearmi delle competenze sul tema, e quindi l'anno scorso ho partecipato anche attivamente all'incontro che avete organizzato, quest'anno sono stato chiamato anche a fare un intervento questa sera. Tanto mi preme dire che la tematica che riguarda il servizio idrico integrato vive di brusche frenate così come di accelerate improvvise che per i non addetti ai lavori è difficile capire. C'è stato il referendum di cui si è ampiamente parlato, anche magari parlato del suo intervento, ma ancora prima si diceva della legge regionale della soppressione degli ATO, e per quel che riguarda il nostro territorio, che è una diretta conseguenza, anche un assemblea dei sindaci a cavallo tra Natale e l'ultimo dell'anno, si è tenuta il 27 di dicembre, in cui era stato chiesto ai sindaci presenti allora, intero una piccola minoranza, di approvare un piano d'ambito al 27 di dicembre. Quindi anche questo rientra tra quelle questioni che a mio modo di vedere sono inspiegabili per effetto della legge regionale, per cui ci sono delle accelerate. Poi ad oggi del piano d'ambito ancora nulla si sa, perché in Regione Lombardia, perché si attende una risposta. Io dico che sicuramente uno dei problemi principali dal punto di vista dei comuni è un problema di titolarità. Le competenze che sono state demandate alla provincia per delega della regione dovrebbero essere prima di tutto competenze dei comuni. Il fatto che i comuni siano delegati a dare pareri all'interno delle cosiddette conferenze sicuramente non ci soddisfa, perché noi, per esempio, come Fino Mornasco, poco meno di 10.000 abitanti sulla provincia di Como, contiamo praticamente nulla, e questo ci fa dire che poi le scelte in materia di servizio idrico integrato vengono assunte altrove, magari nelle segreterie dei partiti, ma non nei comuni, e soprattutto non da chi amministra e da chi è più vicino dovrebbe essere ai cittadini, alla gente, alla comunità. Tuttavia, come si diceva, la questione aperta della partecipazione dei comuni è uno dei punti. Quando si parla, voi parlavate di partecipazione dei cittadini, io credo che la partecipazione dei cittadini si espliciti sia attraverso i vari comitati, ma soprattutto anche attraverso i comuni, perché poi la rappresentanza diretta dei propri eletti fa sì che ci possa essere un'incidenza anche sulle politiche che riguardano l'acqua a livello provinciale. Un'altra scelta che a mio modo di vedere è infelice, ma lo dicevo anche l'anno scorso, scelta infelice di Regione Lombardia, questa è anche qui una prerogativa di Regione Lombardia che risulta essere calcata da altre regioni, e far combaciare gli ambiti ottimali con le province, e quindi per diversi motivi bypassare quelle esperienze virtuose di gestione dell'acqua che già ci sono anche sul nostro territorio, che riguardano quelli che prima erano i consorzi, che poi col tempo sono diventate società di capitale, ma comunque partecipazione 100% pubblica. La scelta dell'ambito ottimale provinciale persegue l'obiettivo di contenere i costi, ma se ricordiamo, mi potrà correggere magari se sbaglio, la legge nazionale parla di unitarietà del sistema idrico integrato e quindi parla, non dice quale deve essere la corrispondenza tra ambito ottimale e territorio. Quindi la prima domanda che io ho fatto l'anno scorso e che quest'anno sono a ribadire è: perché non valorizzare le esperienze locali? Qua in sala peraltro c'è il presidente di una realtà quale quella di Susseveso, che saluto, ho avuto modo di parlare anche prima. Io credo che Susseveso, Collina Comasti, per quel che riguarda Fino Mornasco, sono esperienze di virtuosità che si potrebbero portare avanti. Io parlo concretamente di quello che è l'esperienza da amministratore, no, nella gestione dell'acqua. Mi sembra poi che quello che è l'idea dell'ambito ottimale, quindi far coincidere l'ambito con la provincia, è una sorta di tentativo di fusione a freddo, invece di incentivare le aggregazioni dei servizi sovracomunali, nello spirito di quella che è anche la nuova finanziaria. Mi sembra un po' di rivedere la falsariga della scelta sull'unione dei comuni rispetto a quella della soppressione dei comuni sotto i 1.000 abitanti. Un conto è dire tutti i comuni sotto i 1.000 abitanti devono sparire, un conto è dire favoriamo l'unione dei comuni perché crea economie di scala, perché crea anche servizi sovracomunali che possono dare in termini di efficienza, efficacia e anche economicità risultati migliori. Quindi se mi si chiede occorre una gestione unitaria, dico di sì. Può essere un'emanazione della pubblica amministrazione a gestire il servizio idrico integrato? Sì. In che modo? A mio giudizio con l'affidamento in house, ma questo è un giudizio strettamente personale. Affidamento in house, che non vuol dire, qua un po' mi trovo su una posizione diversa rispetto al comitato, non vuol dire soltanto società di diritto pubblico, ma anche società di diritto privato, giuridicamente di diritto privato, ma con dei distinguo, cioè con capitale 100% pubblico, quindi piena partecipazione pubblica, con quelle che sono anche le garanzie che la legge oggi sancisce, per esempio il controllo analogo sulle società partecipate. E quindi forse qualcuno non lo saprà, negli ultimi anni diverse sono state le leggi nella direzione di un controllo tra la pubblica amministrazione e quelle che sono le società partecipate ancorché di diritto privato, proprio perché il cosiddetto controllo analogo favorisce quella che è l'ingerenza della pubblica amministrazione sulle scelte delle società da essa controllate, e fa sì che le strategie politiche assunte da queste società siano le strategie che la pubblica amministrazione ha in mente. Il controllo analogo è fondamentale in questo senso, quindi non vedo una differenza tra diritto pubblico e diritto privato, piuttosto tra partecipazione del capitale 100% pubblico e invece privato, questo sì. Il fatto che l'affidamento in house possa andare a questo tipo di società, a mio avviso, potrebbe creare da una parte una valorizzazione delle esperienze che noi abbiamo a livello territoriale. Certamente ci sono dei punti critici, per esempio le competenze. Queste società non devono diventare i cimiteri degli elefanti, come talvolta sono, per collocare quelli che sono i trombati della politica, e quindi se non entrano nei consigli comunali, provinciali e regionali, non hanno nomine altrove, finiscono per presiedere le società partecipate. Alcune società così sono così, altre fortunatamente no. Discorso della meritocrazia: c'è una procedura, c'è una legge recentemente varata anche dal governo che prevede che le società di diritto privato soggette a controllo analogo debbano seguire quelli che sono i criteri di evidenza pubblica sia nei bandi ma anche nell'assunzione di personale, e questa è una norma che tutela la meritocrazia anche all'interno di queste società. Non possono essere il ricettacolo dei pochi eletti che esprimono, diciamo, preferenze per questa o per la parte politica, ma si deve scegliere sulla base del merito. Ancora una volta ribadisco che ci sono delle esperienze sul territorio che sono sicuramente positive. In tal senso anche c'è in atto un tentativo di aggregazione di queste società controllato 100% pubblico, che potrebbero tranquillamente, a mio avviso, ambire alla gestione a livello provinciale di quello che è il servizio di idrico integrale. Tra l'altro credo che questo vorrebbe dire procedere su una falsariga dell'attuale esperienza. Ovviamente da amministratore che cosa chiedo? Chiedo che vengano sbloccati i fondi per gli investimenti, perché oggigiorno abbiamo reti che fanno acqua, nel vero senso della parola, da tutte le parti, mancanza di infrastrutture adeguate, penso alle fognature, io parti del paese ancora oggi che non hanno l'allacciamento alla fognatura, ed è assurdo. Esigenze chiaramente di miglioria. Dove prendere questi soldi? Le scelte sono due. Il comitato referendario propone di prendere i soldi sulla fiscalità generale, su quello che è la fiscalità generale. Quella che era invece la scelta di Regione Lombardia, andando a toccare anche a toccare le tariffe, è praticamente coprire con le entrate quelle che sarebbero le uscite, anche tenendo conto degli investimenti. Io dico che sicuramente l'acqua è un bene pubblico, è un bene che deve essere garantito a tutti. Il punto di noi comuni, che noi stiamo vivendo particolare disagio in questo momento, e non poter avere delle risorse nostre per poter investire sul sistema idrico integrato. Quindi auspico anche per i comuni la possibilità di introdurre delle quote di solidarietà affinché i comuni che più hanno possono mettere anche a disposizione per i comuni meno virtuosi o comunque fino ad oggi meno baciati dalla fortuna e quindi meno in grado di intervenire sul loro patrimonio. Questo esempio io lo mutuo anche da un altro settore che è più di mia competenza, che è quello dei servizi sociali associati, perché un tema di aziende speciali, consortili che sono nate poi su tutta la provincia che gestiscono servizi sociali sovracomunali, ci sono già delle esperienze di fondi di solidarietà soprattutto per gestire altri tipi di servizi, per esempio le rette in comunità per minori in affido, per esempio i percorsi di adozioni o altre cose che incidono in maniera pesante sui bilanci comunali. Io credo che bisogna prendere esempio anche da altri ambiti che sono più avanti anche a livello di Regione Lombardia nella gestione associata di alcuni servizi e che si possa su quello che è l'esperienza anche dei piani di zona dei servizi sociali prendere spunto per poter calcare l'esperienza anche sul sistema idrico integrato. Alcune domande mi sono state poste, io credo di poter dare un punto di vista ma non certamente parlare a nome dell'autorità d'ambito. L'ufficio d'ambito che cosa ne sarà? Io credo che alla fine si chiederà una proroga fino a dicembre, perché in questo momento non mi risulta esserci ancora pronto nulla e quindi credo che a breve anche noi sindaci saremo chiamati a doverci pronunciare sulla proroga, sulla creazione dell'ufficio d'ambito. So anche che qualcosa si muove a livello, quindi le sensazioni che aveva Fumagalli sono sensazioni anche mie, che qualcosa si sta muovendo a livello provinciale e che probabilmente a breve una proposta su una modalità di gestione verrà portata avanti anche in assemblea dei sindaci. Mi auguro e spero che questa proposta vada nella direzione di una gestione in house e quindi attraverso aziende di controllate pubbliche e che si possa sempre più andare avanti, che la politica possa sempre più dare l'esempio di andare avanti per quell'aggregazione anche di realtà di gestione che già ci sono sul territorio. Ecco, questo è l'intervento che volevo fare, che credo che in qualche modo ricalchi il punto di vista degli altri comuni che insieme a me partecipano almeno nella gestione del servizio sulla zona della bassa Comasca, quindi attorno al fino Mornasco e Olgiate e limitrofi. Ecco, questo è un po' quello che è il mio punto di vista. Dunque, sono state esposte un po' di idee, di situazioni che penso che diano abbastanza da pensare, possono sollecitare domande o anche altre idee. Devo anche aggiungere che parlando nel periodo della campagna referendaria, andando a parlare in vari comuni, la situazione che ho avuto, dove appunto ci sono queste gestioni in house o altre comunque gestite dagli enti locali, viene vissuto in modo pesante il fatto di questa espropriazione di una gestione che è stata creata, portata avanti, vissuta con anche problemi, perché problemi comunque in queste gestioni esistono, ma in cui si tenta di superare, e quindi con sofferenza viene vista un'espropriazione o comunque da parte di un sindaco che sente il proprio territorio non poter incidere così tanto. Mi permetta di fare due esempi di quello che sta dicendo. Cioè, uno è un incontro che ho avuto settimana scorsa con il mio gestore per una serie di bollette non pagate di case popolari del mio comune. Cioè, se il gestore fosse un gestore provinciale non ci sarebbe la stessa immediatezza di dialogo. Noi abbiamo avuto l'opportunità di individuare anche delle strategie condivise per intervenire presso i morosi per farli intervenire e fare in modo che paghino, perché altrimenti l'alternativa è quella, essendoci un unico contatore per una serie di alloggi popolari, che si chiuda il contatore per tutti gli alloggi che rimangono senza. Cioè, io credo che se c'è un gestore che è in grado di dialogare col comune, questo tipo di problematiche possa trovare anche una soluzione di tipo diverso, senza che arrivi l'ENEL di turno che chiude il contatore e poi rimanda tutti i servizi sociali comunali. Altro esempio che posso fare è il discorso degli investimenti. Se io ho un piano degli investimenti condiviso col mio gestore, si può pianificare, il mio gestore può capire anche le difficoltà del mio comune, si può fare anche un'ipotesi di un piano di rientro per quello che sono gli investimenti. Se il gestore è un gestore sovracomunale ma lontano dalla realtà comunale, quando mi dice, come qualsiasi altro ente, quando mi dice c'è bisogno di fare questo intervento, o mi paghi o mi paghi. Cioè, le differenze sono in sostanza queste, poi alla fine c'è quella flessibilità anche nella gestione, perché l'ente gestore è un'emanazione del comune che ci permette anche di studiare le soluzioni più consone a quelli che sono i problemi dei cittadini. Una cosa, riprendendo a quello che diceva il sindaco Napoli, che ringrazio, peccato che parla a titolo personale, come si diceva, e non perché c'è magari una linea condivisa all'interno dell'assemblea dei sindaci, teoricamente destinata a sparire, si spera tenuta in vita non solo fino alla fine dell'anno. Cioè, innanzitutto questo passaggio qui sul fermare il percorso legato all'ufficio d'ambito provinciale che gestirebbe dalle decisioni, e quest'altro passaggio legato all'aggregazione delle società pubbliche esistenti. Non so se qualcuno è a maggior conoscenza di questo percorso, a che punto del percorso, se ne vogliamo discutere questa sera. Io butto lì un argomento magari scomodo di discussione, non solo per gli amministratori, ma anche per noi cittadini. Noi abbiamo detto l'obiettivo e il disegno della legge iniziativa popolare sono gli enti di diritto pubblico, e quindi anche superare la logica delle SPA totale capitale pubblico. Ovviamente se il percorso che i sindaci, non so se la totalità o una parte dei sindaci, una parte del territorio provinciale sta pensando a questo percorso, aggregare le società pubbliche esistenti e arrivare a un gestore unico provinciale, può essere un percorso che anche noi potremmo condividere se, oltre ai requisiti dell'in house, il controllo analogo, la totale titolarità, quindi proprietà delle società a carico dei comuni e quant'altro, c'è però la necessità di fare i conti con l'oste. Ci troviamo a Como, e a Como forse è una delle poche, forse l'unica realtà che non ha la gestione pubblica dell'acqua attraverso soggetti totalmente pubblici. ACSM e Como Depur sappiamo che sono la cosa più lontana dalla gestione pubblica dell'acqua. Stiamo parlando di una società quotata in borsa, perché ACSM è essenzialmente A2A, quindi una multinazionale. In questi giorni si sta discutendo addirittura di un'aggregazione a livello macro regionale, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, su tutti i servizi pubblici, cui a fare la padrone A2A, quindi ACSM diventerebbe il satellite di questa operazione essenzialmente finanziaria e speculativa, e dall'altra parte Como Depur, che sicuramente non è il soggetto pubblico ma tutt'altro il soggetto privato. Quindi il fatto che stia nascendo questo percorso, l'aggregazione delle società pubbliche esistenti per gestire il ciclo idrico in tutta la provincia, ha o farà i conti con la realtà più importante della provincia, che appunto la città e l'Interland, rispetto a questa cosa. Io credo che su questo, quando noi chiediamo il percorso partecipato, vorremmo dire che i cittadini ci vogliono capire innanzitutto, che il percorso sia trasparente, non fatto in quella logica. Lei l'ha rappresentato magari con delle parole forti, non le usate, i trombati della politica o le decisioni prese nelle segrete stanze delle segreterie dei partiti, dove al cittadino vengono altro che calate sulla testa. Cioè il cittadino se ne rende conto solo quando sulla propria bolletta compare A2A e non capisce chi è, ma capisce che la bolletta costa 3 volte tanto di quanto costava la gestione pubblica, insomma. Quindi vorremmo che questo percorso, ripeto, possiamo iniziarlo questa sera in maniera molto trasparente, qual è l'acqua, metta sul tavolo anche le difficoltà. Cioè, a Como tra l'altro in provincia si va alle elezioni, quindi si rischia ulteriormente di fare i conti senza l'oste, no? Da questo punto di vista. Però è una cosa che dovremmo prima o poi fare, bello, cioè noi l'abbiamo disegnato bene, la legge iniziativa popolare è una cosa bella, la puoi pubblica, la con diritto. Poi l'articolazione pratica è tutt'altra cosa, non riusciamo a portare a casa il risultato del referendum, figuriamoci in provincia di Como mandare via la CSM e la 2A, insomma. Però ne dobbiamo parlare di queste cose, se no il percorso io me l'ho più o meno preparato è questo qui, cioè CSM significa 2A, significa Edison, adesso ne è uscita dalla compagine, significa Veolia, che è la più grande multinazionale al mondo dell'acqua, insieme a Suez, che sono quelli che hanno privatizzato l'acqua in mezzo mondo, quindi non stiamo parlando di un nemico lontanissimo, stiamo parlando di qualcosa che è sulle nostre bollette dell'acqua oggi qui in città, insomma. C'era una domanda? Io mi chiamo Claudio Bellosso, sono il presidente di Alto Guraghe. A Saverio è una città pubblica composta da 9 comuni nella zona della Giardese. Noi abbiamo fatto un percorso completamente diverso rispetto alla privatizzazione. Il nostro era un ex consorzio, la società si è ricostituita nel 2006, attraverso un lungo arbitrato con il gestore privato abbiamo, dopo 4 anni, rilevato l'impianto di depurazione e l'abbiamo portato in mani pubbliche. Quindi un percorso esattamente contrario a quello che è stato individuato, è stata una fatica pazzesca riuscire a riportare in ambito pubblico, ripeto, non solo un cespite, un bene che è quello del depuratore, ma vuol dire anche tutta una serie di attività che riguardano il controllo del territorio industriale, tant'altro che prima non si faceva. Ho sentito una serie di osservazioni su cui mi permetto qualche piccola riflessione. È sicuramente vero che c'è una situazione di stop and go sulle normative, anche i gestori sono chiamati poi a in qualche modo confrontarsi non soltanto per la propria attività ma anche nei rapporti con i sindaci rispetto ad una normativa che cambia a peso spinto e spesso e volentieri diventa contraddittoria, no? Nel senso che c'è una norma che vale per qualche mese, poi viene abrogata, poi c'è la sentenza della Corte Costituzionale, poi c'è la legge regionale. Oggi siamo sicuramente in una situazione tuttora di confusione, perché nonostante il referendum poi non c'è un quadro normativo chiaro che consenta a tutti i soggetti di partecipare ad un disegno in qualche modo condiviso. La situazione di Como poi è particolarmente complicata, lo diceva prima Napoli, l'assemblea dei sindaci ha approvato il 27 dicembre il piano d'ambito, quindi pre-referendum, e anche nell'ambito che diciamo dovrebbe essere un aspetto importante che riguarda il meccanismo tariffario c'è una grande nebbia, nel senso che sono indicati una serie di principi generali e poi non c'è modo di rapportare con te. Oggi in che condizioni siamo? Siamo in una situazione particolarmente frazionata, ci sono credo nella provincia di Como circa 25-30 società che si occupano a vario titolo di spezzoni del mondo dell'acqua, quindi con sicuramente inefficienze, disorganizzazione e quant'altro. Manca una tariffa, oggi credo che i comuni e le società vivano una difficoltà di investimento legato al fatto che sono tariffe vecchie. C'è un problema di investimenti complessivi su tutte le reti, quindi da quello che le fognature sono sottoterra, per cui in campagna elettorale non si vedono, ma lì sono sicuramente problemi. Ci sono problemi legati all'innovazione e all'efficientamento degli impianti di depurazione, ci sono norme che dicono che al 2016 gli scarichi saranno sempre più severi legittimamente nell'ambito diciamo, degli scarichi sulle acque superficiali. Ci sono tutta quindi una serie di temi importanti e quindi investimenti che sono stati individuati seppur a grandi linee nell'ambito del piano d'ambito e che oggi non trovano risposta perché di fatto l'ATO o quello che sarà l'ufficio d'ambito è congelato, quindi di fatto il piano d'ambito è congelato, di fatto gli investimenti non si fanno. Io credo che da questa situazione in qualche modo bisogna venire fuori, al di là di prorogare il dato a dicembre, eccetera. Però il problema comunque di individuare un meccanismo per cui in provincia di Roma sia possibile fare degli investimenti sulle reti, sulle infrastrutture, che vanno pagate attraverso la fiscalità generale, le tariffe, quello che volete voi, ma che in qualche modo sia possibile fare un tipo di intervento, credo che diventi essenziale. Cioè non è possibile continuare a gestire una situazione di questo genere. C'era un aspetto che veniva citato prima rispetto all'ipotesi di avere l'atto non nell'ambito provinciale, ma seguendo un criterio che è quello del bacino idrografico. Diventa questo elemento importante perché, per esempio, in una regione Lombardia ci sono una serie di interventi che riguardano le riqualificazioni dei corsi d'acqua, il Lura piuttosto che altri fiumi. Se non si ragiona in termini di bacino idrografico, quei tipi di interventi non si fanno, e quindi compito, diciamo, di chi ha il governo politico, diciamo, di questo tema sarebbe quello non solo di essere latitante, come è successo in questi mesi, ma di essere un soggetto promotore rispetto alle società che sono presenti sul territorio in un'ottica di aggregazione. Io l'idea di pensare ad una società unica mettendo insieme 23 soggetti, siccome ogni tanto se ne parla, ma di lì secondo me non ne andiamo a capo. La logica vorrebbe invece di avere un soggetto che sia politicamente forte, in grado di guidare il percorso di aggregazione, di guidarlo magari sulle società che già insistono sullo stesso bacino idrico, quindi cito la mia in realtà, che è quella dell'Ura, ci sono 2, 3, 4 società che a vario titolo si occupano di segmenti, ma che si innestano sul corso dell'Ura. Sarebbe sicuramente molto più semplice aggregare soggetti che hanno un unico bacino idrografico, che quindi hanno un'attenzione anche ambientale che diventa comune, anziché pensare ad aggregazioni che vanno dalle zone di Fino Mornasco, questa Napoli, fino all'Alto Lago. Sono percorsi che o li fai d'imperio, ma che poi alla fine non portano da nessuna parte. Di aggregazione, ripeto, se ne parla tanto. Io francamente, al di là delle mille riunioni che ogni tanto mi capita di fare, però ripeto, di costrutto ne vedo veramente poco, mi piacerebbe avere invece un soggetto interessato a queste politiche di aggregazione, che fa piccoli passi, ma che sono passi concreti, quindi operazioni di semplificazione, di concentrazione, che portano da una parte efficienza, ma dall'altra mantengono un rapporto diretto con i comuni, perché società che possono avere 20-30 comuni consentono, di avere il soggetto, il comune con cui dialoga, piuttosto che avere il numero verde da chiamare. E quindi si riesce a raggiungere elementi comunque di dimensione, di efficienza, di attenzione ambientale, perché comunque si ha un'unica logica rispetto al corso dell'acqua, e nello stesso tempo di avere un rapporto diretto con i cittadini. Io credo che l'attenzione, al di là, ripeto, di chi fa poi l'attività per ottenere leggi di inquadramento, la legge quadro nazionale, piuttosto che il discorso della legge regionale, sia importante mantenere un'attenzione vigile anche nelle vostre zone, perché in questa realtà spesso e volentieri ogni tanto vengono fuori delle operazioni, delle proposte di forzatura che poi non vanno da nessuna parte, il resto è silenzio assoluto. Mentre io credo che tutti quanti abbiamo bisogno di ragionare rispetto a sistemi di aggregazione, agli investimenti che devono essere fatti, e ragionare su una tariffa che possa essere sostenibile, ragionevole e che in qualche modo condivisa, perché anche qui, voglio dire, ipotizzare salti bruschi di tariffa diventa complicato non soltanto per le famiglie, ma diventa complicato anche per i tessuti industriali di questa realtà, perché se è vero che il principio per cui chi inquina paga e che credo debba essere alla base di qualunque tipo di ragionamento, bisogna tenere conto anche del tessuto economico di questa zona, perché le forzature rischiano poi di creare ulteriori problemi in un mercato che in questo momento certamente non è felice. Per cui bisogna costruire un percorso condiviso anche sui meccanismi tariffari, proprio per consentirci di arrivare ad un punto di equilibrio, ad un punto finale, ma bisogna cominciare a parlare anche di queste cose. Grazie. Grazie. Ovviamente la provincia di Como è difficile da vedere un solo soggetto che gestisce l'acqua, perché abbiamo delle situazioni così diversificate, secondo delle zone, dalla Brianza all'Alto Lago, che che effettivamente renderebbe poi questo che vuole essere efficiente, ben venduta come efficienza e economicità, in realtà avrebbe delle grosse problematiche di efficienza non conoscendo le singole realtà. Quello che si già si parlava una volta, che si cercava di superare questo problema, si era parlato dei spambiti, no? Perché se si vuole le soluzioni si trovano anche in questo marasma. Come il problema dei fondi, parlavo, sono anche bloccati alcuni fondi proprio perché se non tanto una cosa non c'è l'altra, non c'è l'altra, anche qui a livello normativo quando c'è la volontà di potrebbero fare soluzioni possono anche esistere quando c'è la volontà politica. Altre osservazioni per costruire un percorso finalmente nello servizio olimpico gestito anche in provincia di Como. Non vale che parliamo solo noi, interlocuzione è. Stato confusionale. Con un po' di sussegre solo per vincere. Apriamo il dibattito. Non si sente però. Come gestore posso dire che sono molto confuso, come operatore del settore, però niente. Anche noi, cioè il collega Bellò che può testimoniare, auspichiamo un'aggregazione, noi siamo una società che ha cercato di, così, partire dal basso, di aggregare, non tutti hanno creduto in questo step. Io credo che in queste situazioni bisogna fare un discorso industriale, tecnico, quindi cercare di capire come un sistema, in questo caso l'acqua, possa offrire un servizio di qualità efficiente, possa funzionare, possa avere costi di gestione più bassi, quindi incidere il meno possibile sui contribuenti. E la mia confusione che dicevo prima nasce anche dal fatto che per alcuni servizi certi ragionamenti non si sono fatti, comunque sono stati digeriti più facilmente. Ad esempio quando arriva la bolletta deve venire la casa, o forse un ragionamento di questo tipo non è stato fatto, come mai? Se teniamo un discorso dal punto di vista tecnico, quindi di quanto il servizio costa eccetera, forse dovrebbe essere fatto anche per gli altri costi che le famiglie sostengono. Un tema che mi sembra di non aver sentito era quello magari di, come c'è nel settore dell'energia elettrica e gas, quello di istituire un autorità che in maniera operativa possa controllare. Poi il discorso, insomma, è un discorso che può essere visto da molti punti di vista, e quindi secondo me dovrebbe anche entrare in un dettaglio tecnico gestionale. Io sostengo la cultura personale, quello che i servizi debbano essere dati a chi sa gestirli in maniera migliore. Non sempre una posizione, diciamo, che va in antitesi con chi sostiene che non possa essere pubblica. Ad esempio, io gestisco una società pubblica e cerchiamo di fare il nostro servizio nel migliore dei modi. Una gara, io credo che il decreto Ronchi, quando l'avete citato prima, non necessariamente, utilizzare l'acqua, che dà la possibilità anche ai soggetti pubblici di partecipare alle gare. La disciplina europea dice altre cose, diverse da quelle che diciamo noi, per cui ne sono uscite questa sera. La disciplina europea dice diamo i servizi a chi è più bravo, chi sa gestire meglio. Questo dice la disciplina europea. Che altro dire? Ma speriamo che chi gestisce, io mi associo a chi prima ha fatto l'intervento, e chi ha le redini in questo momento ci dia delle indicazioni chiare, e così il pubblico, chi gestisce il servizio, sa anche come muoversi, perché secondo me il danno più grosso oggi è questo open goal che è stato citato, quindi parlare da diversi anni delle solite cose, e ad esempio gli altri mi sembra che siano citati in una legge del 96, del 94, oggi diciamo non andiamo in provincia di Como, in 94 ore sono passati tantissimi anni, non abbiamo ancora un altro funzionante, non abbiamo ancora una tariffa. Un'altra riflessione che ho avuto, che mi crea la conclusione che vi dicevo prima, è questa: cioè, fino ad oggi il servizio l'acqua è stata gestita pubblicamente, cioè il 90%, 45% della gestione dell'acqua ad oggi è pubblica. Quindi referendum, quindi con, io credo, molti aspetti anche negativi, magari in alcune realtà virtuose, nel nord, eccetera, questo diciamo lo si sente in maniera diversa. È stato, ringrazio il sindaco del cosiddetto apprezzamento per la società che gestisco, cerchiamo di fare bene, però in Italia diciamo non è così, cioè siamo un paese arretrato, e fino ad oggi era gestito il pubblico l'acqua. Quindi se siamo un micro referendum, ha detto andiamo avanti, se non cambiano le cose ovviamente, analizzando ragionamenti, che andiamo avanti così. Quindi paradossalmente stai dicendo siamo contenti di mantenere il sistema come è stato gestito fino ad oggi, quindi con tutte le debolezze, non vedo nel referendum il cambiamento o cambiare i meccanismi che hanno, tengono, insomma, che ci fanno zoppicare ad oggi. Ci ha fatto un sistema arretrato, cioè noi abbiamo a livello europeo, siamo ai livelli della Grecia con gli investimenti del settore d'acqua, anzi questo dato, che siamo ai livelli della Grecia, è un dato di 2 anni fa. Diciamo che abbiamo le tariffe più basse d'Europa, e questo a mio avviso non è un aspetto positivo, perché secondo me andare a prendere le risorse per fare gli investimenti nella fiscalità generale significa non gestire, dal punto di vista imprenditoriale e manageriale, anche il pubblico servizio. Uno gestisce, fa andare avanti la bottega, il panettiere che fa andare avanti la bottega e vende il pane, non può dare il pane gratis e prendere i soldi da qualche altra parte, è un controsenso. E facendo così è anche difficile migliorarsi e raggiungere l'efficienza. Se uno invece ha i ricavi dalla tariffa, comunque dal servizio che propone, siamo certi che cercherà di venire nel migliore dei modi, di renderlo più economico possibile e lontano. L'Italia è un paese che diciamo utilizza l'acqua di falda, l'acqua potabile, per il ciclo industriale, e questi sono gli sprechi. Questo referendum non lo dice, anzi continuiamo ad andare avanti così, cioè anziché fare investimenti, cambiare i sistemi produttivi, le nostre aziende prendono l'acqua pulita e la scaricano. Mi sono permesso di, perché sono stato invitato, in realtà sono venuto per l'interesse a sentire anche gli altri punti di vista, credo che confrontarsi sia essenziale proprio per scambiarsi dei punti di vista. All'invito mi sono ringrazio, ho deciso di dire queste cose, per cui lo vedo come sicuramente è stato un risultato molto netto, molto importante. Credo che però sia stato, diciamo, su alcuni temi, anche quello della tariffa, sia stato un tema molto delicato, su cui molta gente è andata a votare senza sapere bene quello che stava votando. Quindi secondo me c'è stato anche, è stato un po' politicizzato. Dopodiché io insomma, sono un po' scettico in questo, perché ritengo c'è un sistema di gestione delle aziende pubbliche che non è un sistema basato totalmente comunque su valori positivi come la meritocrazia eccetera, ma su dei meccanismi di nomina e per appartenenza. Quindi io sono stato anche nominato, sono, diciamo, il presidente che appartiene a un certo giro, per cui credo che finché il sistema pubblico vada avanti così, cioè per nomine di per appartenenza e non per capacità, professionalità, è proprio, cioè, c'è un problema di fondo che non permette di risolvere le cose. Non voglio rubare altro tempo, è chiaro che se uno gestisce appunto lì, cioè chi gestisce i propri soldi sicuramente cerca di farlo nei migliori modi, puntando anche a farli rendere di più. Chi gestisce i soldi non suoi, poi una persona che ha una vocazione forte, motivazioni forti, oppure non lo farà sicuramente nel migliore dei modi. Questo è un po' quello che mi sento di dire anche sull'esperienza del mandato ricevuto. Se qualcuno certo, io sono un sindaco di un piccolo paese, ho firmato il referendum e pur non essendo pienamente d'accordo con voi, vorrei però ricordare che l'articolo 23 bis conteneva due storture che erano un danno totale all'ente pubblico. Era insocializzare le perdite e privatizzare i profitti, per dirla la vecchia, no? Anche se non appartengo a una certa parte politica. Cioè, in effetti, imponeva agli enti locali di svendere le società al 31-12. Questo significava mettere sul mercato tutti i sacrifici dei comuni che avevano costituito le società e svendere a colui che arrivava per primo. Quindi non è che il referendum ha provocato solo dei disastri, probabilmente ha evitato un disastro economico. Certo, poi viene utilizzata la storia del 7% come se fosse un profitto, però c'è anche un'altra teoria che dice che qualunque capitale pubblico o privato deve avere una remunerazione, che si chiami ammortamento o remunerazione, ci deve essere la sostituzione del capitale, che sia pubblico o privato, perlomeno è sostituito. Perché se si ricorre sempre alla fiscalità centrale, è un continuo andare a cercare nel pozzo di San Patrizio che non esiste più. La realtà è questa, a meno che non si viva di solo demagogia. Allora, questa remunerazione che il referendum ha cancellato deve rientrare attraverso una tariffa. La tariffa c'è, il sistema del calcolo della tariffa c'è, e credo che anche chi fa parte del memorandum di queste cose le sappia. Oltretutto, il piano d'ambito non è stato approvato dalla cosiddetta minoranza, ma da coloro che, sentendo il problema dell'acqua, hanno partecipato all'assemblea. Mi spiace dirlo, se poi i sindaci non partecipano all'assemblea non possono dire che è stato approvato. Adesso sono un po' i sindaci, scusi. No, scusa, quando ho partecipato e ho contribuito anche dalla parte politica, perché non sono abituato a vivere di demagogia, ma guardo i problemi della gente e risolvo i problemi della gente, sono pragmatico. E chi ha voluto andare, chi ha voluto votare e contribuire alla soluzione dei problemi c'è stato. Chi non ha voluto andare è un altro problema, è una scelta politicamente sbagliata, non di partito ma politicamente sbagliata, comunque è una scelta. Ora, è chiaro che c'è una situazione non molto fluida per quanto riguarda la gestione dell'acqua in provincia, del servizio idrico integrato in provincia di Como. Però è altrettanto vero che le società adesso possono esistere. Questo referendum l'ha realizzato, senza quello non dovevate chiudere le società. È vero o no? Allora, prima di dire che il referendum non è servito, cioè, c'erano degli aspetti negativi e aspetti positivi, ma perlomeno ha risolto un problema grave per i comuni, perché altrimenti ci saremmo trovati senza gestione dell'acqua, non solo in provincia di Como, ma anche in gran parte dell'Italia. Quindi il referendum è servito. Poi si può non essere d'accordo su alcuni aspetti, ma per un'altra faccenda. Il problema del piano d'ambito è perlomeno adesso sottoposto alla Commissione di Vigilanza Roma per l'approvazione, questo mi risulta. Ecco, e quindi il piano d'ambito, seppur approvato da una minoranza sparuta, può essere esecutivo a favore dei comuni o delle società del territorio, altrimenti avremmo corso il rischio di non avere pure neanche un piano d'ambito e in più col bailare della normativa sia regionale che statale, che cambia un giorno sì, un giorno no, e condivido con voi su questo, non avremmo avuto neanche quello. Quindi, cioè, vi sono dei risultati positivi e negativi. Ora c'è poi l'idea di coloro che ritengono che sia possibile far esistere ancora le società, però di costruire qualcosa sopra, qualcuno la chiama conglomerata. E lì è da capire cosa si vuol fare però con questa conglomerata. Se la conglomerata va a raggruppare tutte le società del territorio e lascia una certa autonomia di gestione alle società esistenti, oppure se la conglomerata diventerà la holding che dirà tu devi fare questo, tu devi fare questo, lì c'è da riflettere sopra, probabilmente c'è da studiare questo problema, verrà da una parte anche politica, no mia propria o di qualcun altro, però secondo me vanno valutate per poter fare una proposta seria in futuro. Ora, poi non è proprio vero che i comuni non hanno più competenze in materia, perché i comuni devono esprimere un parere vincolante all'agenzia provinciale, non è un parere che vale niente, è vincolante. È chiaro che un'assemblea dove ci sono tutti i comuni, ma era così anche con l'altro, i comuni piccoli conteranno pochissimo, i comuni con un certo peso conteranno molto di più, non solo perché una testa un voto, ma il peso politico, il peso della conoscenza, eccetera, eccetera, vale molto di più e serve a creare più aggregazione nei piccoli comuni. È vero che la regione, quando ha legiferato in materia degli ambiti, ha fatto, secondo me, una cannata grossa come una casa, perché non ha neanche applicato la legge Galli, perché la legge Galli non ha mai detto che l'ambito doveva corrispondere ad una provincia. Diceva, sembra l'articolo 26 se non erro, che gli ambiti potevano corrispondere ai bacini orografici, non solo idrografici, perché c'è un po' di differenza. L'idrografico corrisponde l'orografico, se andiamo sul territorio di montagna, che non è cosa di poco conto, corrisponde a un versante o all'altro. E poteva creare delle aggregazioni, questo per la popolazione, è chiaro, no? Scende al basso, poteva creare delle aggregazioni positive, perché la ricerca dell'unione del grosso agglomerato crea all'inizio sinergie, tutte queste belle parole economiche che si sentono dire, sinergie, economicità, eccetera, eccetera, poi alla fine creano il carrozzone. Laddove si cerca di sdoppiare, di rimpicciolire per dare più efficienza, noi c'è la tendenza a unificare, conglomerare, creare le grosse di stampo dirigistico che poi non creano veramente l'efficienza, perché alla lunga l'efficienza quando si aggrega si perde. All'inizio c'è la cosiddetta economia di scala teorica, poi c'è. Questo per entrare nel discorso che facevo prima sul discorso dell'Unione Comune, cioè è una grossa, mi sia permesso di dirlo, dirò anche in altre sedi, una delle più grosse puttanate che poteva fare uno Stato. Hanno cancellato la storia italiana, che è fatta e nata sui comuni e non sullo Stato centrale, non solo le liste, la storia è nata sui comuni, la storia d'Italia, e non sullo Stato centrale, e deve rimanere quorum, con un certo tipo di aggregazione autonoma e non di stampo dirigistico. È una delle leggi più bolscevichiche che si potessero fare, questa. Di stampo bolscevico, nonostante sia del PDL, è di stampo bolscevico, perché è chiaro, fai così, punto e fine, finisce. Ora, questo non può essere applicato neanche in una legge come la vostra, laddove si va a dire si deve garantire, adesso io leggevo, 50 metri cubi gratuiti. Ora io mi chiedo. Litri giorno? Insomma. Sì, litri giorno, e corrispondono a 182 metri cubi al costo medio di 1 euro al metro cubo tra acqua e depurazione, significa creare un deficit di circa 182 euro all'anno per l'ente locale che deve gestire l'acqua. Secondo me, scusate, dove entra? Perché che sia acqua sia un bene comune, ma deve avere perlomeno una remunerazione. Perché la tariffa Galli, la tariffa della legge Galli, prevedeva che ci fossero delle tariffe che poi per tutte le cosiddette, tra virgolette, classi disagiate o persone disagiate o più deboli, ci fosse una riduzione della tariffa. Ma non gratuito in partenza, perché il gratuito in partenza fa bella figura, rende popolare e poi ci mette con le braghe di terra per terra. E questo l'abbiamo già visto in tanti altri servizi. Occorre, secondo me, portare avanti un discorso di gradazione della tariffa e di tener conto come specificava la legge Galli, che sotto questo punto di vista prevedeva la possibilità di procedere a coloro che avevano dei problemi di disagio, di carenze, di difficoltà economica, di avere delle tariffe più basse, ma non certamente per tutto. Poi certi aspetti della legge e certe osservazioni fatte, sono in modo particolare al primo intervento sulla regione Lombardia, mi trovo d'accordo, purtroppo c'è un po' di stato confusionale, non so se dico Luca, cioè, per dire che quindi mi trovo, ho sottoscritto il referendum, ho partecipato alla campagna, ma di che abbiamo fatto i nostri discorsi pubblici per sostenere proprio anche questo, naturalmente però con qualche distinto, perché non è che possa adeguarmi totalmente a una visione anche un po' politica, mi trovo un po' perplesso su certe cose. Per precisare, calcolatrice che ci aiutano, i telefonini che hanno la calcolatrice, 50 litri giorno persona sono 18.000 litri persona all'anno, sono 18 metri cubi, sono 18 euro all'anno. 18 euro all'anno. Cioè, stiamo parlando di una cosa che 18 euro me lo mangio con la ricarica del mio telefono. Sì, ma fa un persona su 70 euro. Però se l'aspetto è. Ha ragione. No, no, va bene, al di là di questo, ma mi fa un po' da spunto rispetto anche a alcune cose che sono state dette, soprattutto da Colombo, che è partito dal paragonare un po' il tema di cui stiamo discutendo questa sera con quando ci arrivano a casa le bollette dell'Enel e del gas. Ecco, vogliamo sottolineare, non perché lo interpretiamo noi, la stessa Corte Costituzionale, che il senso del referendum è proprio quello di distinguere in maniera netta il servizio idrico, che è innanzitutto un diritto, da quello che invece è un servizio a tariffa, qual è inequivocabilmente l'elettricità, il gas o quant'altro. Anche quella stessa authority che manca, in effetti c'è, peccato che all'italiana prima si chiamava Coviri, Commissione di Vigilanza sui Servizi Idrici, poi è diventato Conviri, adesso si chiama Anviri, è la stessa cosa ma ha cambiato nome tre volte, che è stata messa a presidio di un servizio, qual è l'acqua, paragonandolo all'energia e al gas dove c'è un'authority. Sfido innanzitutto a rispondere ai cittadini che ricevono mensilmente la bolletta dell'energia e del gas, che da quando è stata liberalizzata, grazie alle autorità, funziona benissimo, nel senso che le tariffe sono calmierate, le bollette sono trasparenti, le tariffe sono corrispondenti alle capacità economiche dei cittadini, cioè praticamente le autorità non servono a nulla, ma soprattutto agiscono su un settore liberalizzato, ed è giusto che ci sia un'authority che serva a calmierare e soprattutto a evitare i soliti cartelli tra le grandi società che la fanno da padroni. Ecco, l'acqua, ma non lo diciamo noi, lo dicono 26 milioni di cittadini, è un'altra cosa, non ha bisogno dell'authority perché non è un servizio liberalizzabile dal 14 di giugno 2010 e 11. Non è un servizio liberalizzabile, quindi a cosa serve l'authority se la gestione la fanno i comuni? A niente, i comuni sono i cittadini, è stato detto prima, e quindi controllano, governano, decidono e gestiscono. Quindi non mettiamo sullo stesso piano dei servizi che sono sfuggiti dall'attenzione pubblica: l'energia, il gas, le autostrade, le ferrovie, adesso le poste e altri servizi. Sono ormai, hanno preso la strada della liberalizzazione e privatizzazione e ci sono sfuggiti dal controllo nostro e dei sindaci. Se il sindaco non gestisce nemmeno il sole, cioè la sua pubblica illuminazione, perché l'ha data a una società privata. Mentre il sindaco Napoli prima ci ha ricordato un passaggio, che il paragone che a noi più vicino, che dimenticano tutti i servizi sociali, ma nessuno chiede al cittadino che si rivolge ai servizi sociali: prima di parlare con me metti 50 euro sul tavolo o pagami la bolletta di 200 euro al mese perché io ti possa assistere nei tuoi bisogni fondamentali. Nessuno mette in discussione, e lì ci sono le aziende speciali di diritto pubblico a svolgere un servizio che è pubblico, che è a tutela del diritto dei cittadini alla salute. Ecco, l'acqua è più vicina a quella cosa lì e quindi è fuori dall'altra logica che è il mercato, la liberalizzazione, la concorrenza, le tariffe, ci si scatena, no? Chi fa pagare un centesimo in meno la bolletta. L'acqua non deve essere questa cosa qui, e quindi non ci si deve neanche scandalizzare del fatto che la bolletta dell'acqua costi poco, perché è giusto che costa poco, perché quei 50 litri giorno persona, che noi diciamo gratuita, che ci sono, ripeto, 18 euro all'anno, non devono scandalizzare nessuno, come non scandalizza nessuno che i servizi sociali siano ricaricati sulla fiscalità generale. Cioè, questa distinzione l'abbiamo fatta in maniera netta, chiunque di noi è andato a votare, e a votare sì, ha detto l'acqua è diversa, l'acqua è fuori da quel percorso lì, l'acqua è un servizio sociale, mettiamola così per capirci. Io volevo intervenire per, non so il collega di quale comune sia, perché non l'ha detto. La Valdintervi, Laino Valdintervi, perché lei ha detto che è stato un atto di responsabilità approvare un piano d'ambito in questo senso, no? Abbiamo qua anche un rappresentante, c'è il gatto in fondo, lui mi può correggere se sbaglio, mi sembra che quel giorno il 50% gatti era presente in comune, sì. Forse era presente il 50% dei comuni, forse sì, forse no. Forse sì, forse no. Io ho la sensazione comunque, al di là di quante fosse, io ho la sensazione comunque di contare poco quando al 18 di dicembre mi sottopongono un piano d'ambito e me lo fanno approvare il 27 di dicembre. Io credo che il senso della partecipazione, che poi è stata evocata anche dai promotori del comitato referendario, ma che io condivido almeno in questo punto, è che i comuni non possono essere chiamati a ratificare una scelta che non è demagogia. Il piano d'ambito è da 6 mesi che c'era. No, il piano d'ambito, io non l'ho interrotta, se posso intervenire, non voglio far polemica. Scusi. Mi perdono. Per essere chiari, però io vorrei anche poter intervenire perché non l'ho interrotta. Il piano d'ambito era 6 mesi che se ne parlava, sì, il piano d'ambito quando è che è stato sottoposto ai comuni? Quando è stato sottoposto ai comuni? Ma come ordine del giorno? Mi perdoni, allora per cortesia, se vogliamo dire le cose come stanno, è che noi siamo chiamati a ratificare qualche cosa che era già pronto e ben impacchettato e bisognava soltanto alzare la manina. La scelta di alcuni comuni, tra cui il mio, è stata anche quella di dire: io la manina non la alzo. e credo che anche questo sia un gesto di responsabilità. C'è chi si è mosso per dire sì al referendum, c'è chi si è mosso per dire no, io a questa cosa non voglio partecipare, già che sono stato esautorato dalle mie funzioni a monte di tutto, quando è stato deciso che i comuni devono andare in conferenza e semplicemente dare un parere. Io credo che in questo modo si fa, non si faccia altro che allontanare il servizio idrico dai cittadini. Questo è il mio punto di vista. Dopodiché le esperienze di gestione, l'ho detto prima, di imporre fusioni a freddo nelle gestioni non è neanche condivisibile. Infatti non ho detto che l'esperienza che noi stiamo cercando di portare avanti sia funzione di quello che Regione Lombardia ha detto, perché dobbiamo trovarci pronti all'appuntamento. Noi stiamo cercando di fare qualcos'altro, siccome qua si parla della realtà di Como, ma anche il nostro ambito è grosso modo per abitanti grande quanto la città di Como. Quindi io credo che i piccoli comuni, comunque medio piccoli come il mio, abbiano portato avanti, stiano portando avanti degli esempi di politica virtuosa a livello territoriale, quelli che vengono detti così subambiti, purtroppo non vengono riconosciuti dalla legislazione, e che comunque rappresentano una buona fetta del territorio. Questa esperienza io vorrei salvaguardare. E non credo assolutamente che sia un interesse solo di parte, perché lo esprime gran parte della nostra provincia. Eccezione fatta per Como, ma Como non si è mossa su questo punto, ma non si è mossa neanche per fare l'azienda speciale consortile per la gestione dei piani di zona. E mi risulta che è ben lungi dal prendere una scelta del genere. Per fare un parallelo sempre in un altro ambito che mi è sicuramente più familiare. Grazie della possibilità di confrontarci su un tema così importante come quello dell'acqua, l'hai affrontato già parecchie volte, poi ormai ci si può. Ogni tanto guardo più perché ci ho messo un po' di appunti, non ho fogli. Primo punto è che effettivamente è difficile lavorare anche in una maniera compiuta e coordinata con normative e giurisprudenze continuamente in evoluzione, quindi anche impostare un ragionamento che possa essere stabile e continuativo nel tempo è oggettivamente difficile, qualsiasi esso sia. In questo contesto ci si ritrova a cercare di fare quello che si è certi di poter fare. Per quanto riguarda il consorzio del Lato e in merito ai finanziamenti, il lavoro degli ultimi mesi è stato quello di portare avanti il più possibile, stimolando i comuni a preparare i progetti, il completamento della rete fognaria e depurativa provinciale. Ci sono dei fondi che tutti noi paghiamo sulla nostra bolletta, che vengono sulla parte del fognatore e depurazione, che vengono date al consorzio del Lato, che li gestisce ridistribuendole a chi ne fa richiesta secondo determinati criteri e parametri per la realizzazione dei fognatori e depuratori. In un anno e mezzo sono stati distribuiti oltre 5 milioni di euro. E questo poi crea lavoro a valle, diminuisce l'inquinamento ambientale, ci evita le sanzioni europee, nelle quali in parte potevamo già rischiare di essere, nelle quali potevamo già rischiare di essere, appunto perché non c'erano le reti né fognarie né depurative né accumulazioni. Per quanto riguarda invece tutta la parte gestionale, la parte della tariffa, dell'acqua e la parte del piano d'ambito, il lavoro è stato comunque complicato e complesso. Il piano d'ambito sarebbe già approvato in quanto sono scaduti dal convieri nazionale, in quanto sono scaduti i termini del silenzio stesso. Arriverà a breve una comunicazione al consorzio del Lato nella quale si dirà questo. E quindi è operativo. Mancano due pezzi però per definire il lavoro. Il primo è la tariffa, non definita come tariffa reale media, cioè quella che c'è adesso, che copre tutti gli investimenti, la tariffa costruita a scaglioni di consumo, a fasce di consumo, come hanno già fatto le altre attività. e la parte del modello gestionale sul quale i sindaci saranno chiamati a confrontarsi. Io voglio fare un ragionamento diverso poi. Sono passati 17 anni dalla legge Valli e in sostanza lo Stato ha passato alle province, alle autonomie locali la partita del servizio idrico. Io oggi mi sento di dire che il federalismo dell'acqua in Lombardia è fallito. È fallito perché in Lombardia, al netto del comune di Milano, che ha un'acqua a parte, e la zona milanese, insomma, si è fatto fatica ad arrivare a una soluzione, si è fatto fatica ad arrivare a un fondo. Ed è mi ricollego a una cosa che diceva Colombo prima, un'autority centrale che verifichi che questi fallimenti non ci siano più, a prescindere dalle scelte che autonomamente i territori faranno, secondo me serve. Il Cipriano, il sindaco di Laino, lo sa bene, quando c'era il comitato di controllo regionale delle delibere, certe delibere buttate là che capitano adesso in alcuni comuni non ci sarebbero mai state, mi sbaglio, forse si sarebbe risolto qualche problema prima che... Esatto. Quindi un controllo terzo secondo me serve sempre, è importante. E con la questione della tariffa, oggi viviamo una situazione strana. In sostanza abbiamo parte dell'acqua che chi paga le tasse la regala, parte della tariffa dell'acqua viene pagata da chi paga le tasse a favore degli evasori. E spiego perché. Oggi, nella quasi totalità dei nostri comuni, la tariffa dell'acqua non copre il servizio. Il comune deve prendere dei soldi da un'altra parte e andare ad usarli. Per pagare la bolletta elettrica, per pagare i reagenti dell'acquedotto, per pagare la depurazione nei termini di legge. Ora, questi soldi qui sono di quelli che le tasse le pagano. Quindi, chi le tasse le paga sta regalando un pezzo dell'acqua che esce dal rubinetto a chi le tasse non le paga. A me questa roba qua non mi va bene. Secondo punto. La copertura completa del servizio idrico dal punto di vista economico, e quindi rendere un servizio autonomo che stia in piedi da solo, senza dover andare a chiedere soldi a qualcun altro che magari ci copre caccia bombardiere, quindi quell'anno noi non ce li ha, venne richiesta dagli ambientalisti e fecero una battaglia che durò anni, da prima della legge Galli fino al 96, per avere questo punto. Io, che sono ingegnere ambientale, e mi sento ambientalista, secondo me ha fatto bene e ha ragione, perché non bisogna andare a elemosinare a chi poi i soldi in realtà non ti dà con 120% di deficit PIL. Per quanto riguarda alcuni dei punti che sono stati sottolineati, quando è stato fatto il piano d'ambito, che è vero che è stato non c'è stato tantissimo tempo per poterlo leggere, ma è che è stato costruito nel tempo, poi ha avuto possibilità o competenze o anche passione di farlo. È stata approvata a latere una mozione che ha preso più voti del piano d'ambito, nella quale si richiede la partecipazione dei portatori di interesse tutti alla costituzione del servizio integrato, nella quale si chiede l'articolazione tarifaria fatta in modo che non colpisca alcune fasce piuttosto che altre. Si chiedono alcune cose che sono in sostanza molto in linea con i contenuti che sono stati espressi prima. E questo appunto ha avuto ampia condivisione, ripeto, più ampia del piano d'ambito, anche perché sui principi poi concreti di buon senso ci si prova sempre, insomma, ci si siede davanti a un tavolo, se ne discute, ci si confronta, si trova la sintesi e si va avanti. E questo secondo me è stato un buon risultato che si è ottenuto. Poi per quanto riguarda il consumo idrico, secondo me si può risparmiare con l'acqua, ci sono tanti metodi, anche banali, possiamo usare in casa per risparmiare un po' d'acqua, che è quello che poi ci serve. In Germania consumano la metà dell'acqua che consumiamo noi. L'acqua non è un bene indifferente al consumo. Maggiore consumo dell'acqua, oltre un certo livello, c'è cioè un livello fisiologico, vuol dire che ci sono degli sprechi, ci sono delle inefficienze anche nell'uso. Avere un prezzo adeguato e corretto che può tener conto delle cose che hanno avviso, io sono un po' diverso, quindi secondo me inserire anche una fascia di rispetto a titolo gratuito, sostanzialmente gratuito, può anche andare bene, tanto la ripagano quelli che consumano tanto, per cui di rifo di rafa, non per starci dentro. E può anche essere un segnale. Ed è diversa dal trasporto pubblico, per esempio. Il trasporto pubblico dobbiamo incentivare la gente a usare il pullman e il treno, quindi dovremmo cercare di diminuire i prezzi, perché se alziamo i prezzi tagliamo fuori una fascia della popolazione. Sull'acqua, insomma, facciamola stare in piedi da solo il servizio dell'acqua, e non esageriamo troppo i prezzi, che non è giusto, ma non facciamolo neanche scendere troppo, perché altrimenti mi si lascia niente per tutto il giorno, perché tanto quella roba lì è gratis, che arriva gratis a fuori lei, insomma, non va tanto bene. Per chiudere, nelle prossime settimane i sindaci saranno, appunto, come dicevo, chiamati a confrontarsi sul modello gestionale del servizio idrico. Se ne è discusso apertamente, a mio avviso, devo dire che su questo punto io condivido quello che diceva Luca Colombo prima, cosa che però oggi, a mio avviso, è impraticabile. A seguito del referendum la situazione è scompaginata e quindi diventa molto difficile andare a proporre soltanto un ragionamento diverso rispetto alla gestione pubblica. E lo dico con una sorta di rammarico, perché a mio avviso comunque per fare una buona amministrazione ci si deve confrontare con tutte le possibilità che si hanno di fronte, per poi scegliere in maniera oculata, ragionata e corretta. E non si può fare, giustamente, politicamente inaccettabile e insostenibile, non farebbe fatica più a sostenere una cosa del genere. Di conseguenza i sindaci saranno chiamati a discutere e a confrontarsi su questo argomento, vedremo poi dalla discussione delle prossime settimane cosa esce, quali saranno i contenuti. Poi sulla base di quello bisognerà lavorare per finalmente, dopo tutti questi anni, portare a compimento un percorso che i comuni aspettano, perché, ripeto, stanno togliendo soldi alle scuole, stanno togliendo soldi alle strade, stanno togliendo soldi ai servizi sociali per pagare la bolletta dell'acqua, cosa che secondo me non è accettabile. Si sta discutendo di sottoporre all'assemblea dei sindaci una scelta di questo tipo. Cosa che però non è di questa sede, ma sarà della sede dell'assemblea dei sindaci, quindi in quella sede poi sarà il confronto aperto a tutti i soggetti chiamati a farlo. Però partecipazione vuol dire anche questa, devo dire, devo dire che dell'intervento di Gatico, molto apprezzato per la puntualità e anche il fatto che ci abbia aggiornato su alcuni passaggi, questo è rimasto anche a me molto poco definito, no? Hai dettagliato alcune parti, anche dando delle cifre sulle quali l'ATO sta agendo direttamente, sulla rete fognaria da finanziare, sono perfettamente d'accordo, se è una priorità che vi siete dati quella della depurazione. Meno d'accordo sulla tua affermazione che il principio del recupero totale dei costi sia stato richiesto dagli ambientalisti italiani, posto che, ci tengo a precisarlo da ambientalista, il tema che ha un nome inglese, full cost recovery, non è stato inventato dall'Italia, ma è un principio del trattato europeo, è un principio europeo che tra l'altro si sta cercando di chiedere a livello europeo con una petizione di cancellare. Quindi la legge 1996 fu cost recovery europeo del 2001. No, fu cost recovery nasce come principio ispiratore della legge Gallica datata 1994, che è un recepimento di una direttiva europea che già conteneva il tema del full cost recovery. Quindi cioè quello del full cost recovery va bene sui servizi che avevamo citato prima, l'energia, il gas, la telefonia e quant'altro, non va bene per quei servizi primari di cui il cittadino non può fare meno, posto questo cappello. Però quello del modello gestionale l'hai lasciato in sospeso, come sui quali i sindaci si devono confrontare. Cioè, perché questa cosa lasciata così nel vago? Sembra che stiamo parlando del segreto, posso dire, di Pulcinella? Cioè, iniziamo a discutere di questa cosa, non perché noi vogliamo mettere le mani nel piatto, però è un piatto, anzi un bicchiere, da cui noi dobbiamo bere prima o poi. A me interessa se io devo bere un'acqua gestita dalla società pubblica che del mio territorio o dalla multinazionale di turno che mi mette a disposizione il numero verde se non capisco la bolletta o se l'acqua fa schifo. Perché il modello gestionale è questo, no? È chi mette le mani sul mio acquedotto, mio, cioè di tutti i cittadini. Io credo che c'è una debolezza nel fronte di tutta questa operazione, al di là dei passaggi che abbiamo cercato di chiarire questa sera a livello nazionale, a livello regionale, ed è proprio, sembra aver percepito un po' da alcuni passaggi, sul fronte dei sindaci che spesso non condivide un percorso e si presenta, diciamo così, a ranghi sparsi all'assemblea, magari venendo a scoprire l'ordine del giorno 5 giorni prima, magari prima di Natale, di una cosa fondamentale qual è il piano d'ambito o il modello gestionale. Cioè, io credo che il percorso debba essere partecipato da prima, noi diciamo coinvolgendo i cittadini, ma che almeno questo percorso avvenga cercando una linea all'interno della conferenza dei sindaci o assemblea dei sindaci o gruppo di sindaci a livello territoriale e quant'altro. Cioè, se io credo il sindaco si presenta alla conferenza con almeno le idee chiare su che cosa vuole, mi sembra che tutti, al di là delle differenze di vedute che ha avuto lei rispetto al sindaco Napoli e altri interventi, abbiate detto cose chiare su quello che volete come sindaci. Volete poter continuare a decidere e volete gestire, perché non vorreste dare in mano a dei soggetti che non conoscete, il numero verde, la gestione del vostro servizio. Se questo è il vostro volere, va espresso, altrimenti sul tavolo, cosa che noi abbiamo visto e rivisto in tutte le salse a livello lombardo, abbiamo seguito un po' tutte le assemblee del lato, viene deciso dal consulente di turno o da quello che grida di più in assemblea o da quello che si fa capofila di un fronte che non esiste, e semplicemente perché è elaborata una linea. Guardate che noi perché sosteniamo questa cosa? Perché anche nel percorso fino ad oggi gli errori da parte di esperti famosi, che poi sono costati soldi in termini di consulenze, li stiamo pagando ancora adesso. Il percorso per costituire la società patrimoniale Acqua Como Acqua, guardate che noi avevamo scritto a tutti i sindaci dicendo non votate, ed è passato nella maggior parte dei consigli comunali, non votate Como Acqua. Oggi Como Acqua quanto è costato in termini di consulenza e di delibere dei consigli comunali? È finito direttamente in quel cestino. Uno non l'ha votata, sì, mi ricordo. Mi ricordo benissimo tutti i passaggi. Quindi ripeto, non è perché l'esperto pagato fior di soldi ha dato la linea. Con l'assemblea degli sindaci si è votata la costituzione della società patrimoniale privata. No, sta parlando di un passaggio in consiglio comunale. Però il sindaco era prima. Il passaggio del consiglio comunale? No, ma era prima, era una cosa che non tutti l'hanno fatta. Era a cavallo della nomina nel 2009. Era 2009. Ero entrato io, infatti consiglio comunale non l'ho votato. No, ma non è consiglio comunale, si è votato in assemblea. C'era già stata forse l'assemblea. È stata votata in prima assemblea di farla. questo per dire, al di là del merito, che arrivare all'assemblea dei sindaci a ranghi sparsi secondo noi è troppo tardi. Prima, perché il percorso va partecipato in anticipo e questa poteva essere l'occasione, e diciamo che è ancora l'occasione. Secondo, perché almeno definire che cosa vogliamo sull'acqua credo che sia il primo aspetto, altrimenti, ripeto, se io non ho le idee chiare vado alla conferenza dei sindaci o all'assemblea dell'ATRO, che non è la stessa cosa, abbiamo detto, e mi chiarisco le idee quel giorno, è troppo tardi. Guardate che li abbiamo visti i sindaci che guardavano il compagno di sedia per capire come alzare la mano durante le votazioni clou dell'assemblea dell'ATRO, e lì l'errore c'è stato fatto, è troppo tardi. Quindi quel percorso che noi abbiamo voluto oggi portare qui, è chiaro che una parte è indirizzata ai parlamentari che non sono qui, una parte è indirizzata ai consiglieri regionali, visto che Gaffori ha preso appunti e una parte è indirizzata ai sindaci, voleva essere, ripeto, l'inizio di un percorso che nasce non il 13 di giugno, nasce molto prima, come minimo nel 2007 con la legge iniziativa popolare, e che vi chiediamo agli amministratori, ma anche lo chiediamo a noi stessi, di tenerci partecipati giorno per giorno. Altrimenti, ripeto, i sindaci dovranno confrontarsi sul modello gestionale e buttare lì una cosa. Se detta così mi viene l'orticaria. Tu parli di partecipazione, c'è perfettamente ragione, sono d'accordo con te. Però si inizia un percorso, non è che il percorso finisce, il percorso inizia, uno dichiara degli intenti, inizia un percorso e poi deve andarlo a costruire nel tempo per arrivare all'obiettivo che si è dato. Funziona così di solito, almeno questa è l'intenzione. Si costruisce un percorso, si inizierà un percorso. E il percorso dovrà portare a un compimento. Chiaro che non si fa su una questione così delicata, perché poi diventa concretamente operativa, non si fa nessuno in mente di fare atti di impegno, come nessuno di noi ne fa a casa propria o nei propri consigli comunali, si deve discutere, però si inizia un percorso che dovrà arrivare all'obiettivo che ci si è dato. Non so come state impostando, vi faccio questo esempio perché non è lontano da noi. L'ATO di Cremona, anzi la provincia di Cremona, ha fatto quel percorso che tu dici inizieremo nei prossimi giorni, così ha chiesto una consulenza a Deloitte, se sapete chi è Deloitte, è il consulente della Parmalat, su come gestire il servizio idrico. Ha prodotto, a fronte di una consulenza di qualche migliaia di euro, non so quanti, una pagina in cui ha messo a confronto il modello tra la gestione totalmente privata, la gestione mista e la gestione pubblica, invitando a parlare le società quotate in borsa sparse per tutta Italia, che dal loro punto di vista sono le migliori, e ponendo sul tavolo dei sindaci. Attenzione, su quella paginetta c'è scritto che la gestione migliore è quella coi privati, perché li abbiamo qui, li abbiamo invitati, sono i migliori. Per fortuna c'è stato un sindaco, solo uno, della provincia di Cremona, che si è detto perplesso e ha mandato praticamente all'aria il tavolo, altrimenti quel giorno si decideva che il modello gestionale del lato di Cremona era la società privata, quindi la gara. Non ti sto disegnando una cosa stranissima, successo a ridosso del mese di agosto, anche lì certe decisioni prese attorno a Ferragosto. Per dirti, se il percorso è quello di Cremona, attenzione, insomma. Scusi, cioè, però non è che in quella sede si decide, prima di tutto non è ancora istituita la terziaria, quindi non si può decidere nulla. Forse tu intendevi, saremmo chiamati a iniziare. Allora è già. Cioè prima, vedi, alcune differenze mi permetta, la storia del gratuito uno risolverei diversamente, cioè preferire che la gente percepisca 30 euro in più all'anno, ma di là, il mio concetto era quello, l'ho sintetizzato, hai capito? Non è un discorso di contrasto, è a volte che va risolto il problema, non si ricorda. Sul piano d'abito, non è una cosa polemica, ma il piano d'abito è stato un percorso che è durato da 3 anni, che piano d'armi, c'era stato lo stralcio, non so, forse non nel comitato. Chi te lo dice? Chi ha uno dei promotori del referendum anti-legge regionale, chi votava sempre contro in assemblea, perché se va a vedere da anni indietro nell'assemblea ha sempre votato contro, ha accusato addirittura la provincia di utilizzo del manuale Cencelli per fare il primo comitato interno e ha votato contro, è stato uno dei promotori del referendum regionale, poi ha cambiato la prima legge regionale. Quindi non parto da adesso, parto da lontano. Quindi il piano d'anno esisteva già, poi è stato aggiornato, c'era lo straccio e così via. Ora, non volevo fare polemiche, però tante volte bisogna essere chiari. Assolutamente. Sì, tutto deve essere chiaro, però il piano d'ambito, se non sbaglio, doveva prevedere anche le modalità gestionali. Cioè, adesso siamo qua a iniziare un percorso per decidere la modalità. È fortuna non c'era. È stata la fortuna, è la cosa che andava a provare. Fa parte il piano d'ambito. Il piano d'ambito. Come convido che il piano va bene, come è stato fatto, come state ma nessuno di conseguenza. L'autorità nazionale che lo valuta dice va bene, cioè la questione del modello gestionale lì era indicato come gestore unico, punto, che è quello che prevede la legge. Quello che prevede la legge, però si dice se il gestore mista privata. Non c'era un percorso costruito tra i sindaci allora e non c'era neanche una stabilità normativa perché c'era ancora il corso e tutto quanto per poter neanche impostarlo, perché sennò su che cosa si parla. Adesso la partita è molto più aperta, molto più facilmente discutibile. Ieri abbiamo il Consiglio di amministrazione dell'ATO, abbiamo licenziato, preferivo che mi andavate nel bei documenti, ricordo più corretto, però abbiamo licenziato una delibera nella quale si dice di sottoporre all'assemblea dei sindaci il modello in auto di gestione del servizio, ma ve l'avevo detto prima, se era pazzesco, ok, a tutti stavi attenti. Quindi si vuole fare utilizzare come cartina di tornasole che ci sia una forte volontà politica di portare avanti il modello gestionale. Io sono più provocatorio di te, se mi dici così vuol dire che dovresti fare così. No, io non caro Gatti, mi conosci abbastanza. No, tanto la battuta, in verità. Non credo, cioè, mi sembra che la linea sia, cioè, dopo il referendum è difficile fare un'altra discussione. Vuoi essere politica di scommesse? Faccio io la politica di scommesse. Prima hai detto che sulla fiscalità, sul discorso delle tariffe, tu rifiuti il fatto che i contribuenti paghino i morosi. In sostanza hai detto chi pagherà. A fine Monasco il mio comune non funziona. Hai detto chi utilizza l'acqua e non paga. Di fatto questo non funziona, perché semmai i comuni ripianano quelle che sono le perdite del sistema idrico, non certo di chi non paga l'acqua. No, non è detto questo. È detto chi perde, chi usa l'acqua. No, non è questo. Chi va delle tasse. Chi va delle tasse. È nel senso più generico. Le tariffe sono molto più basse di quello che è andato a costo industriale del servizio. Quindi vale per tutto. Più aumenta la domanda, più andiamo in difficoltà. Sì. Cioè, a me va bene pagare le tasse per garantire il servizio pubblico di trasporto, magari anche gratis a tutti, benissimo, perché più lo usiamo di più. La soluzione, poi aiuto chi ha bisogno. Poi avremo modo di riparlare, ma alzando le tariffe, o comunque pensando che solo con l'aumento delle tariffe si risolvono i problemi di investimento che abbiamo attualmente, non abbiamo da nessuna parte. L'hai detto anche tu, i comuni, al di là dei 5 milioni che avete erogato, che poi coprivano una percentuale di investimenti, non certamente tutto quello che i comuni in questi anni hanno profuso anche come sforzi economici, non, per il futuro non sarà sufficiente. E quindi da una parte alziamo le tariffe, dall'altra dobbiamo anche pensare agli altri fondi dove andare a reperire. Poi comunque per il consumo non dimentichiamoci che dove i comuni hanno fatto una buona campagna per sensibilizzare i propri cittadini sul consumo, indipendentemente da quanto pagavano, il consumo è diminuito, che anche il discorso culturale che il comitato faceva prima, ma che purtroppo non ha più spazio per fare perché è preso da queste modifiche legislative, perché è diventato quello che noi facevamo anche noi. Ed è importante l'atteggiamento culturale, e anche da piccolo e grosso possono incidere molto nelle scuole, ci sono tante modalità. Scusa, Riccardo, tu sei amministratore, quindi puoi capire, guarda cosa succede sulla tariffa rifiuti. Cioè, sulla tariffa rifiuti i costi coprono, i ricavi coprono i costi, ti trovi a dover revisionare un contratto come abbiamo fatto noi recentemente, dato che nel frattempo è anche scaduto l'appalto, abbiamo dovuto rinnovare, ci sono stati aumenti esorbitanti. Un momento storico in cui né le imprese né le famiglie si possono permettere di sobbarcarsi ulteriori spese, soprattutto un delta di differenza così importante, si trovano veramente molte famiglie in difficoltà. Facciamo la stessa cosa sull'acqua, dove andiamo? Sono d'accordo con te, però non è contestuale. Come è contestuale? Perché la tariffa, la tassa dei rifiuti, la soluzione del corpo di la tariffa o la tassa, non lo so, ve lo dovrei dire. Ah, perché la tassa nella patrimoniale seria è fatta sui metri quadri, patrimoniale seria. Sui metri quadri non è allora va perché la tariffa. Allora, noi applichiamo la tariffa rifiuti in base al numero di componenti del nucleo familiare e il numero di. Allora è la tariffa. Allora è la tariffa. La revisione del contratto ti porta naturalmente a ottenere X anni a avere degli adeguamenti. Ultimamente molti comuni hanno dovuto adeguare, abbiamo visto gli incrementi che ci sono. Se tu pensi che la stessa cosa possa avvenire sull'acqua, io chiedo come si fa a sostenere questo fondo. C'è una questione diversa però. Se oggi, forse prima non mi sono spiegato bene, allora se oggi un comune spende 100 sull'acqua, e la sua tariffa è un comune efficiente, perdite poche, la depurazione ce l'ha, l'acqua arriva a tutti, gli arriva sempre, non ci sono più. Spende 100 e incassa 60, questi 40 li sta prendendo da un'altra parte. Allora, nel momento in cui il comune incassa 100 sull'acqua, libera 40 per aiutare chi veramente ha bisogno e non distribuire questo 40 a pioggia su chi ne va, chi ne vale, chi l'acqua la spreca, eccetera, eccetera. È lì. Allora, se il servizio è completo, la tassazione generale va a aiutare chi veramente ha bisogno e non tutti a pioggia in maniera differente. Come può succedere anche così? Sarebbe meglio se avessimo una rete che funziona. Ma se comunque può succedere anche così? Se avessimo la possibilità di adeguare la tariffa che è ferma dal 94, non abbiamo neanche potuto recuperare l'ISTAT, che sono 15 anni dal 96, non abbiamo neanche potuto recuperare l'ISTAT, io avevo 3.000 euro o 35 anni per aiutare le famiglie in difficoltà. Questa è la realtà. Non nel caso mio, ma nella stragrande maggioranza che ho dato io. Chiudiamo su questo. Voglio una zona d'acqua che costa 60%. Sulla tariffa della serata, questa annotazione sulla tariffa, niente, insomma, ritengo quindi che è importante relazionarsi e tenere anche un po' il polso della situazione di quanto sta avvenendo in provincia. Ovviamente i sindaci sono i primi investiti all'assemblea dei sindaci, eccetera. Però è anche importante relazionarsi con il comitato che rappresentiamo i cittadini come i propri cittadini, quindi tenersi in relazione sul territorio. L'iniziativa l'iniziativa che adesso sta mettendo in campo il Comitato è quello di un appello che diffonderemo, che sia si trova sul sito del contratto acqua, ma che comunque non metterò in rete, poi mettiamo tutto. Sappiamo che riceverete tantissime mail, ma vi chiediamo di guardarla, che non rimanga dispersa tra le varie mail che riceverete. E questo appello ovviamente va in linea con quanto è stato imposto sulle richieste che faremo alla Regione, riguardo il territorio, non riguardo la legge nazionale, riguardo i problemi della legge regionale, che al di là di poi delle sfumature su cui si può pensare, su cui stasera ci si è confrontati, è oggettivo che crea confusione alla legge regionale nello stato attuale, tra un referendum che ha modificato una parte, le province e altri problemi, crea proprio somma problematiche su problematiche, per cui chiediamo comunque di sottoscriverla, di prenderne atto e di appoggiarci in questa richiesta che magari riesce a semplificare un po' la vita. Vi ringrazio. Tanto ci risentiremo.